Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, benvenuti, bentornati. Domenica 28 maggio, 14, 32 primi e 24, 25, 26 secondi. Comincia una nuova puntata di Voice Anatomy. Oggi c'è una accoppiata di lusso. Per chi ci segue sul nostro sito e su Facebook sa perfettamente di chi parlo. E vi lascio anche il numero, ovviamente 349-238-6666 per i vostri SMS. Ringrazio dall'altra parte del vetro Alessandro, puntualissimo, il nostro tecnico del suono, la capo redattrice di se stessa Rachele, gli autori senza i quali non potrei respirare, Alessia Navarro e Mauro Meconi, e Milano che ci permette la messa in onda, chi ci ascolta anche direttamente, è anche l'amico di Mai Una Gioia dell'appuntamento sportivo, che oggi non sentirò perché tanto la mia Lazio gioca la sera, per cui non fa niente. Per un po' di ore sei tranquillo. Ecco, avete sentito questa voce? Questo è un signor attore doppiatore, dall'altra parte c'è una signora attrice e doppiatrice. La mia Roma gioca tra un po'. Esatto, ma parleremo anche di anche la sua Roma. Diventa un programma regionale immediato. No, ma poi la cosa bella, caro il mio amico alla mia destra, che la tua voce ha strillato fino a un secondo fa nelle pubblicità di Radio 24, tant'è che io dicevo, ma che sta facendo? È andata in onda di nascosto. Hai capito? Ti allora, sbuco quando meno te l'aspetti. Poi questa voce no, va presentata, si sa. È così, ma tu hai una voce proprio che ti caratterizza e ti racconta più di ogni altra cosa. Con questa voce da sassofono sfondato? No, no, però diciamolo il nome e cognome, siamo per radio. Roberto Stocchi. No, lo dico io, sono no, il presentatore. No, oh, ma tu devi fare... Allora, di Pino Insegno. Pino Insegno! Eccola. E dall'altra parte, signori... Pino Insegno! No! No! Che cos'è per me la Draghetti? Vuoi che te lo dica no. Io cos'è per me o lasciamo bene? No! No! Io direi che non dite niente, perché poi dovessi dire io cosa siete voi è per meglio me, che... no? Diventa subito un problema. Francesca Draghetti, festeggio quest'anno il 40° anniversario della nostra amicizia. È assolutamente impossibile, avendo io 35 anni, no, però... È così, Draghetti, è così, è così. 40° anno, nonché pure una trentina di lavoro insieme, che tornerà fra poco, perché la prima ditta, l'ho detto l'altra settimana, ha una bellissima rientrée, cosa che non è mai esaurita. Ci siamo fermati prima di essere affossati, magari di calare, è bello lasciare quel ricordo, però si torna insieme per una ventina di puntate tematiche divertenti, che fra un po', va bene, parleremo strada facendo. Però voglio presentare bene Roberto Stocchi. Mi metti una musica degna. Oddio, Alessandro, non lo so, ecco. Roberto Stocchi nasce a Roma l'8 novembre. Mi sono addormentato, a Roberto Stocchi già t'avevo perso. Già t'avevo perso. No. Vai, vai. Volevo fare una bella presentazione, ma scusa, vai, vai. Sembravi andato ormai da anni. Guarda, dopo io mi sono svegliato alle 8 stamattina, e mentre tu leggi questo io posso schiacciare un pisolino. Ma poi c'è la tua biografia. Io tutto a botto questi dromedari, vabbè. Non so perché. No, vai. Okay. Vai. Sì. L'ho che fatta bello. Tipo qualche apposta, ma non è un animale Stocchi. Vai Alberto. Nasce a Roma l'8 novembre del 1961. È un attore e un doppiatore italiano. Ha doppiato vari film di animazione come In viaggio con Pippo e Bugs Life, Tarzan e molti altri. Inoltre ha doppiato diversi attori, fra i quali Toby Jones, Chris Penti, Maurice Paul, Wayne Knight, la voce di Klaus, il pesce rosso in American Dad, che io adoro perché sono il padrone di casa. Amore, tu sei il padrone di casa lì. E allora, nonché, questo lo pronunci tu. Chi è? Zach Galifianakis. Eccolo là, che è l'attore della trilogia di Una notte da leoni e non solo. Questo è un cognome veramente improbabile. Io l'ho imparato solo all'ultimo film di tre. Sì, infatti te l'ho fatto dire. Ha avuto un ruolo importantissimo nella serie TV Raccontami, andata in onda su Rai 1, nel quale interpretava Romeo Fortini. E dall'altra parte c'è anche un tuo collega, visto che uno degli autori, che è Mauro Meconi, che oltre a fare Romanzo Criminale no? E Tre metri sopra il cielo, dove muore come un pollo, ma quello ha fatto. Certo. Ha fatto anche degli altri film e con te ha lavorato in Raccontami, no? Ma non eri mio figlio? Tuo figlio era Meconi. Sì, dice, era tuo figlio. Ah no? Ma anche nella vita, se vediamo a casa. Mauro Meconi, il vero figlio, Piero Locchio, figlio di Roberto Stocchi. Sei accompagnato da tantissimi anni con un'attrice, doppiatrice bravissima che è Francesca Draghetti, si può dire. Ah, che pensavo insomma... fosse un'altra. Che... No. Visto che però è il momento delle sposati. Rivelazioni, hai un figlio che non sapevo, esatto. Che dall'altra parte. Un amante. Sei accompagnata da un'attrice bravissima, dico, boh. Vedi quante cose scoprono. Esatto, oggi. Ma vedi? Insomma, un artista poliedrico, signori Roberto. Non mi vedono, se no direi un attore a tutto tondo. Esatto. Vero. Vabbè, sei... Lo dico da solo. Sì, vabbè, hai sconfitto tante cose, ma bravissimo. Draghetti, io... Tu nasci a Parma. Io me lo sono ricordato adesso che guardando la biografia, è vero, tu sei di Parma. Questo sì. Non cambia niente. Sembra un po' una pubblicità, ma sì. Mi sento un po' di Parma. Ma fai pausa, Bino, non so. No, sei anche sorella di Roberto Draghetti che abbiamo avuto ospite del vocione. E hai fatto tantissime cose, a prescindere dalla premiata ditta che ti lega una storia molto lampia. Diciamo nei 5 minuti che mi lasciava libera la premiata, sì, qualcosina ho fatto. Teatro tantissimo, Shakespeare sì. Il tuo compagno d'avventura da tanti anni. Ma in realtà è un tentativo di contagio, nel senso che io continuo a importunarlo sperando che prima o poi qualcosa si attacchi. Però siete riusciti anche a fare una cosa insieme, a parte tu come direttrice di doppiaggio riesco anch'io a fare delle cose insieme a te, ma con lui hai fatto anche un film che hai doppiato insieme che noi ce ne vogliamo ascoltare. Un momento che è Luis Michel. Ah, che se si pronuncia così, io perché insomma sapete perfettamente i miei problemi con le lingue straniere. No? Non col tedesco, mi sembra. No, tedesco vado fortissimo. Lo sapevo. È vero, non è vero. Comunque, ascoltiamoci un momento di Luis Michel. E sono Roberto Stocchi e Francesca Draghetti. Insieme. Ma l'hai diretto tu o l'hai stato diretto? No, era il grande. Cioè, è il grande Rodolfo Bianchi. Ah, Rodolfo Bianchi, ok. Eccoli, tutte e due. Che bastardi! 2000 euro per essermi ammazzata lì dentro per 20 anni! Potremmo fare ammazzare il padrone da un professionista? Sì, io ci sto. Mm-hmm. Signore, avete perduto una cosa! Vedete queste mani? Hanno spento vite umane! Parliamo del compenso. 20.000 euro. Mi lasci riflettere un momento? D'accordo. Ho trovato una perla rara. Ha fatto un mucchio di cose. La Corea del Sud. Kennedy, è stato lui. Ma non bisogna parlarne in giro. Non ti muovere! Voi siete delle professioniste, io sono un professionista. Insieme faremo un buon lavoro. Crepa, carogna! Ci so leggere? Canto! Michel, sì, uomo, almeno una volta nella vita. Eccoli. Vabbè, lo film è delizioso. Molto, molto quei divertente. Piccoli grandi film che sì. Uno se li vede poi non si stacca più da precisissimo, era no, molto bello, divertente. Bello. Senti Draghetti, io non lo sapevo, anche queste sono cose che scopo dopo 40 anni, ma tu volevi fare l'astronauta prima di fare l'attrice. Ma io fare l'astronauta, ma cioè come? Non è una cosa. No, io spero di fare ancora in tempo, ma voglio dire. Come fai in tempo, Draghetti? È il sogno ma... della mia vita. Ho capito, ma bisogna essere fisicamente l'altro integro. Giorno io sono No, ho capito. No, Francesco, non voglio offenderti, ma anch'io non sono fisicamente integro per fare l'astronauta. Ma infatti non puoi, io sì, ma io posso assolutamente. Vabbè, non sei una bambina, credo che ci fermino le transaminasi. Guarda, ci fermano le transaminasi, è una frase molto bella. Ci ferma, dai. No? Guarda. PSA, dai. Non è fondamentale... Gli occhiali. Ma gli occhiali, ma chi se ne frega? Ma lei porta le lenti, poi, che gli importa? No, ma poi ormai io i difetti di vista li ho tutti, tu grazie sì, a Dio. Vero, per cui per te la voce non è importante di ma più, figurati. Come diciamo sempre. Cioè, è tutto lì, no? Guarda, una delle ultime cose che ho diretto come doppiaggio è stato Mars. Non è la storia di un cioccolatino. Non è la storia del cioccolatino. E per me è stato complicatissimo, perché... Guardavo il film, ma veramente in ipnosi. Cioè ogni scena dicevo: ma la vedi, è bellissimo. Matte, sì. Ma tu sei pazza, no, ma anche Anita Russo non mattina tracco di quei film che hanno fatto meravigliosi. Abbiamo già prenotato per te, Pinuccio. Io ho doppiato pure adesso l'ultimo film che ho fatto, Life on Mars, la canzone di David Bowie. Il film Liv Schreiber, che poi è uscito soltanto in DVD. Ma no, mi mette l'ansia, Matte. Ma come l'ansia? Ma tu sei pazza. Ma no, ma è una cosa meravigliosa. È rosso, non c'è niente, non c'è una via, non c'è un bar, non c'è non c'è la pizza napoletana. Non c'è niente, non ci sa né la matrice. Ma come fai? pizza e mortadella, tu sei finito. Me Passenger, l'avete visto che film quello meraviglioso, sì, dove lui sì, si sveglia 90 anni sì, prima del dovuto, non dico altro perché sì, non voglio spoilerare, questo è l'inizio. Oh, dai, no, è bellissimo. È bello, Marte. Io capirai, figurati. Io ci andrei stesso su Marte. No, io no. Ah, io tu sì, sì. Ma io fa sì, che? Ma, io capisco ma, viaggiare, ma, io sono stanziale. Tu pensa soltanto il viaggio, cioè vedi delle cose pazzesche. Intanto c'è non c'è la fila per non fare niente. Io faccio mia una frase di Diego Abbadantuono sul continente nero, quando gli dicono: guarda questi spazi immensi, il cielo che si fonde col deserto, le stelle, cosa provi? E lui dice: io vedo tutti questi spazi, mi viene una tristezza, ma una tristezza, un'ansia che non finisce mai. Io sono così, uguale. No, vedo il mare subito, che si perde a me e remo fino a... D'altronde vorrei ricordare una tua frase di fronte alla piazza principale di Carpi. Sì. Beh, vista una, viste tutte. E io vorrei ricordare Pinuccio sulla piazza rossa in un momento di una magia assoluta, assoluta, di notte nevicava. Una cosa di bellissima e lui che ha fatto: vabbè, sembra la piazza di Carpi. No, ma se, ma lui mi ha detto: guarda, ma che senti? Io ho detto: freddo, da morire, da morire. E dice: guarda San Basilio. E ci siamo di fine a Russia per guardare San Basilio. Abbiamo a circolare esterna a San Basilio, ci arrivavamo. Anzi, lì gli ho detto: lei si è scordata, sembra notti orientali a Luna Park. Perché è fatto uguale i colori. E sono un po' così, no, in effetti sono un po' disfattista, un no, po' no, stanziale. No, gira. È un avventuriero. Quando guarda, andiamo in tournée, ah, non so chi lo sa che abbiamo fatto tutte e tre insieme tournée. Voi la mattina alzate presto, dice: dove siamo? Siamo in Sicilia, qui ci sono i mosaici. Tu che fai? Io vi aspetto in albergo. Il momento più brutto: una macchina la guido io, una macchina la guidi tu, Pino. Partiamo e dopo due minuti, prima telefonata: sei sicuro che se girasse a sinistra? Dico: sì, Pino, vai tranquillo. Click, due minuti: sei sicuro che dobbiamo andare dritti qua? La quarta ti ho mandato. Cagare, dove sì, sai? Non siamo sdoganati dalla zanzara. Noi qua possiamo dire: Cruciani ci ha sdoganato a tutti. Cioè, alle due possiamo dire anche delle cosette più, più che forti. Bello, però, bellissimo. No, no, è così. Sono un po' stanziale. Non volevo essere un'analisi della mia vita, però no, si rimbalza con quella vostra perché siamo amici da 40 anni. Come si dice? Lo vidi sul palcoscenico da Claretta che ero tenuto mille insieme, anni fa. No, no. Abbiamo visto insieme, penso. Lo so, tu, meno male che non mi ci sono fidanzato, però io. Però ti ricordi che avevamo un 50 e 50? Di possibilità. Io non sapevo niente. Esatto, tranquilli, non ho nulla contro le scelte, ma non è così. Private ve le tenete? Assolutamente. Siamo arrivati alla fine del primo blocco, c'è una persona che poi seguirà il nostro incontro e ci sarà un'intervista bellissima con il bravissimo e straordinario Fabio Concato dopo di noi tre. Dopo io rimango. Bello, però Fabietto. Lui sì. Guindoviano. Sì, infatti glielo dirò subito perché lui ci conobbe a Pronto Chi Gioca e raccontavamo come la gente non ti riconosce per la strada, ti mischia. Lui hanno detto, stava nell'entroterra laziale, ha fatto: che niente niente sei con Cater Candande? E lui ha fatto: sì, che magandi Guindoviano? Questa gli ridirò. E poi hanno pure chiesto Roma Capoccia. Perché poi sbaglia di titolo, no, ma lui, grande ironia. Va bene, allora signori, stiamo continuando questo percorso all'interno delle nostre vite, perché stiamo raccontando qualcosa in più rispetto a quello che magari esteticamente è rischiosissima questa intervista. Roberto Stocchi, Francesca Draghetti, e mi ci infilo pure io, Pino Insegno, oggi intervistato. Pinuccio Santo. Esatto, a tra poco con Voice Anatomy, ricordatevi che è appena cominciata. Anatomy. Eccoci di ritorno, Roberto Stocchi alla mia destra, Francesca Draghetti alla mia sinistra, io al centro fra i due. Caro Stocchi, sì, insomma, noi parlavamo che lei vuole fare l'astronauta, tu che volevi fare invece? Ma lo sai che non lo so. No, ti spiego, perché io a 17 anni facevo le pinne col Vespone a Via Galli. Capito, perché tu sei un appiano? Un appiano gentile. No, di Appia, più dell'Appia, sei nato in quella zona, sì, San Giovanni. Sud, no? Allora mia sorella disse: ma veramente ti sei segnato a degli esami per una scuola di teatro? Dico: sì, ma non me va ad andarci, vacce tu. E ci andò lei. Ma come? Sì, poi disse: no, non me va, vacce tu. E io, così, dopo aver fatto le pinne, che comincio il teatro. Papà ha detto: vabbè, ci vado io. Meglio il teatro che le pinne. Esatto. E cominciò. Perché, così. Cioè, non c'è il sacro fuoco da piccolo al centro dell'attenzione animale? Te lo so perfettamente, ma non lo sanno loro perché stavamo nella stessa vero, scuola. È vero. Poi cominciavo subito a fare laboratori teatrali. Però sì, lo sai, poi insomma, tu già mi conoscevi. Sì, no, per non, cui magari dire... non lo sanno loro, chi ci ascolta e sono beh, tanti. Abbiamo avuto anche la fortuna di vivere anni molto interessanti, molto... Sì. Con un grande fermento. C'era una e televisione c'erano... sola, un canale solo, ma c'era la possibilità di lavorarci. Ma forse c'era più fantasia, non lo so. E c'era grande fermento e nelle scuole si facevano i laboratori teatrali. Vedi. Ed erano entusiasmanti e, io credo e ci che siamo lei... ritrovati, ti ricordi? Che chi per una strada, chi per un'altra, avevamo tutti voglia di farlo. Sarà la stessa cosa, fatto. Sì. Io credo che lei abbia cominciato a 2 anni, a tutt'oggi, dopo anni che stiamo insieme. Sì, sì. Lei è più giovane se di me. Se pensi che è stata fidanzata con Ciufoli, che avevano 9 anni, agli esatto. Scout, tu capisci che la vita ed è bellissimo. Comincia intanto... presto. Scusa, io ho lavorato con Vrazov al teatro di Svratranz. Scusa, vorrei sottolineare che quando stavo con Ciufoli, alla veneranda età dei 9 anni, a parte che lui era pieno di capelli, dagli scout noi ci occupavamo dell'animazione intorno al fuoco e quindi facevamo le scenette, gli sketch, quindi probabilmente c'è qualcosa lì di assolutamente genetico. È lì che gli presero fuochi i capelli e lì finì, esatto, fu una disgrazia. Ciufolino, sentiamoci un altro momento di Stocchi. Sono un po' indeciso, però visto che Mauro Meconi impazzisce come sono impazzito io per Dexter, stai dicendo insomma, mio figlio, tuo figlio Mauro Meconi, allora io me l'ascolterei un momento di Dexter dove tu sei il tenente Batista. Se non l'avete vista questa serie, guardatela. Sergente, anche il sergente. Batista, scusami, sergente, no, non tenente, dopo non diventa tenente, sergente. Sì, mi ricordo che è sergente. Vabbè, comunque sergente. Non c'è Milano perché oddio, l'hai fatto per anni e manco lo sai. No, vabbè, dopo diventa tenente, mi suggerisce. Vedi? L'ha vista tutta. Però comincia sergente. Sì, sì, comincia la pure e caporale. Dai, Non è importante, ma Dexter è come Breaking Bad, insomma, sono quelle serie che bisogna assolutamente assaporare. E allora ascoltiamoci un momento del nostro Roberto Stocchi, Dexter, tenente Batista, mentre Dexter, lui era Loris Loddi. Grande. Il lucido folle Loris Loddi, sì, l'abbiamo avuto anche noi. Eccocelo, ascoltiamolo. Mi serve un tuo parere. Vivo per servire. Scusate, ragazzi. Interessante lavoro di mano. Divertente. Davvero? Sì. Da quanto tempo è lì? Ha un'aria familiare. D'accordo. Da quanto tempo è lì? Il sangue non si è ancora seccato. Un paio d'ore, 3 al massimo. Quando l'hanno trovata? Un passante ha chiamato stamattina alle 7:30. Niente impronte, è pulita. Metti i brividi, eh? Dov'è il resto del corpo? C'è solo la mano. Credi sia opera del nostro amico? Il killer del camion frigo? È difficile capirlo, c'è sangue, è diverso. Guarda cos'altro ci ha lasciato. Una cartolina. Ci manda i suoi saluti. Eccolo, eccolo qui. Che bello. Bravo Loris. Sì, no, Loris è straordinario. Vabbè, posso dire? Tu, dai, tu veramente hai una voce che tu non puoi fare un doppione in un film che te si conosce Ne avete parlato con Loris, ma quando lui fa Achille sotto le mura di Troia. Sì. E chiama Ettore circa 15 volte. Lo so perché io ho fatto il trailer di quel film. L'ha fatto ogni volta diverso. No, non è stato straordinario perché io feci quel trailer, poi non potevi doppiarlo, lo doppiò Loris benissimo, perché, però io su quella cosa lì non ne sono uscito, perché come Frodo o come Ettore, chiamarlo sotto le mura, veniva fuori proprio Tor Bella Monaca, veniva proprio dentro il cuore di Roma. No, ci si un tono chiama Hector, cioè vai Hector, cosa chiama Ettore? Ettore! Ettore! Ettore! È uguale, non sono riuscito a farlo, lui è riuscito a farlo. No, ma lui, devo dire, mi ha battuto 2 volte in questi casi, anche quando ha fatto Jim Morrison, una delle poche biografie che non ho fatto. C'era, cioè, provino era sulla poesia che dice lui mentre fa l'amore con lei, da tossico fatto. E insomma, era meraviglioso come l'ha fatto lui. Io ho fatto il provino e giustamente il direttore Vairano mi ha detto: sembra Nando Gazzolo. Non puoi essere così. Devi essere un po' dissonante, stonato, e ci stava. La voce c'era la mia, ma Loris era perfetto. Noi ci conosciamo da tanti anni. Tu ancora qualche volta riesci a... Io te riconosco. Bravissimo. Sembra cosa puoi. Io te riconosco, come te comporti. Non te riconosco. Te ricordi, molto rumore per nulla. Ah, lo Shelly era meraviglioso. Mamma mia. Ma è la vostra intervista, smettetela. Ma dai, una volta che possiamo parlare di te. Ma allora, dai, no. Vatti a prendere un caffè. Allora, no, perché tu sei una biografa brutta, tu conosci tutto di me, per cui non te faccio parlare, perché sei capacissima. Mamma di dire... mia, come sei ricattabile da me. Potrei dire cose che voi umani. Esatto, voi parliamo di distanze. Inizia ora il lato oscuro di Pinocchio. Tu, io sono tuo padre. No, non si può. Draghetti, ma ti piace fare la comica o preferisci? Come mi piace fare la comica? Tu sei un'attrice a tutto tondo, come sempre la domanda che fanno sempre i comici, no? Ma no, insomma, è un attore comico, però tu hai fatto tantissime cose poi a teatro. Sì, sì. Io adoro fare la comica, ma non... Più piace più fare la regista, l'autrice o l'attrice? Questo lo domando io, allora, perché non l'ho mai chiesto. Nell'ordine, regista, autrice, attrice. Infatti, lo sapevo che era questo l'ordine, perché nel poi senso, tu sì. Dai, dove ti trovi meglio? Ti trovi meglio a dirigere? La regia, la regia, quindi che sia regia teatrale o direzione di doppiaggio, dà un po' un senso di onnipotenza, no? Soprattutto se utilizzi degli attori bravi, la sensazione è di un direttore d'orchestra che ha tu hai fatto una regia meravigliosa di un testo dove ha lavorato Gerolamo Alchieri e Roberto Stocchi, che io lo urlo, è con le pietre in tasca di Marie Jones, che è meraviglioso, un testo bellissimo, spero che tu testo lo riprenda. È molto complicato da riprendere per un problema di diritti, però sì, è uno spettacolo. Possiamo sentire addirittura un pezzettino. Non credo che sia un audio bellissimo. Però insomma, io me lo riascolto volentieri questo momento. Vai. Tu una botta non gliela vorresti dare, Non c'è verso nemmeno di avvicinarla. Io vorrei avere i suoi spiccioli. Tutti pronti, ne giriamo uno, ok, Rita? E sai ormai che facete uscire, Martin? No, ho un freddo fottuto. Diventerebbe matto a starsene qui a far niente. Ma Rebecca non avrà bisogno di guardarlo in faccia, sai, per il grande momento di tensione. No, lui viene su dalla collina mentre lei si volta e dalle spalle alla folla. È nella prossima inquadratura. Io gli vado a prendere delle coperte e lo metto in stand-by. E noi cosa dovremmo fare? Guardare lei, che guarda noi, che la guardiamo spodestati. Hanno detto così, spodestati. Quando vuoi, Caroline, motore partito, azione! È stato voce caratteristica. Che regalo! Regalo mi avete poi fatto. È difficile. Racconta la storia in due secondi, Franci, perché è bellissima. Dunque, è un testo che ha scoperto Gerolamo perché era stato presentato al Fringe di Edimburgo. Un testo molto particolare perché prevede 18 personaggi ed è la storia. Da due. Ed è la storia di una troupe americana, quindi truppe cammellate che arrivano in un paesino irlandese per girare un film, utilizzando quindi gli abitanti del paese come comparse, come facce tipiche. E il meccanismo pazzesco dell'operazione teatrale è che tutti questi personaggi, sia gli americani, quindi gli attori, la troupe, il regista, il direttore di produzione, eccetera, e tutti gli abitanti di questo paesino, li abbiamo fatti, sono fatti da due attori in scena che non escono mai, non cambiano costume, non cambiano niente. Ma si segue la storia perfettamente. Per questo dico, è un peccato non riprenderlo. Insomma, ho utilizzato un trucco, l'ho pensato cinematografico, sì. Cioè come se fossero stacchi proprio della cinepresa. Nel montaggio di un film. Loro erano bravi da impazzire e lei ci disse fidatevi, tu esci da Jack, ti siedi da Frank e ti parli da Mark. È lì che è cominciato a drogarmi. Qualcuno dice: da oggi, Pino, puoi tranquillamente cedere la conduzione a Roberto e a Francesca. Grazie, Tonio. Alizio, a tra poco, vuoi sanatomi? Telefonate a Tonio, per favore. A tra poco. Sanatomi. Bentornati signori, sono quasi le 3, mancano pochissimi secondi, fra pochi secondi in tutti i campi di calcio ci sarà l'ultima domenica di calcio sicuramente, ma ci sarà anche un minuto di silenzio dedicato al grandissimo Stefano Farina, abbiamo avuto ospite e vi farò ascoltare qualcosa di lui, ci sarà silenzio sui campi ma parleremo qui con con Stefano, ancora per risentirlo vicino a noi, anche perché era un caro amico ed è stata una persona straordinaria. Insomma, parlare delle persone che ci sono più è sempre retorico, è sempre, sembra superficiale, però insomma bisogna ricordare. Per me invece è sempre bello. Sì, perché bisogna, io farei ogni giorno una festa, cioè dedicata a lunedì Vittorio Gassman, martedì Ugo Tognazzi, mercoledì Nino Manfredi, nelle scuole. Molto probabilmente avremo anche la prossima settimana la possibilità di avere qui il ministro della pubblica istruzione, perché urliamo da questi microfoni il fatto di insegnare l'italiano nelle scuole. Ma non soltanto non la grammatica, l'italiano. Poi puoi mantenere i tuoi dialetti a casa, con gli amici, dove vuoi, ma l'italiano e soprattutto l'impostazione della voce, il coaching, come lo chiamano in Nord Europa, perché sarai un medico, sarai un politico, sarai un comunicatore, sarai un rappresentante, la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è al mondo. È così bello l'italiano. Ma sì, no, è giusto sapersi interfacciare in italiano. E poi quando te pare, nella tua lingua, nel tuo, la lingua, quando perché poi dialetti, pare, quando te pare lo puoi fare. Certo. Allora, ricominciare questo blocco dedicato al calcio con questi due momenti. Uno, vorrei che Roberto Stocchi recitasse e ci ricordasse il monologo bellissimo di Frembe e Febbre al 90, o Febbre al 90esimo, Febbre al 90, insomma, Febbre al 90, film di Nick Orby, meraviglioso per far capire alle donne che significa il calcio per un uomo, è il film migliore, c'è un momento molto divertente. E poi andremo di pari passo con tutte le dediche che faremo in questo blocco. Allora, se c'è una musica degna, brillante, la dolce vita, mettiamo, che è quella del calcio. E allora, eccolo Roberto Stocchi, Febbre al 90. Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Dopo un po' ti si mescola tutto nella testa e non riesci più a capire se la vita è una merda perché l'Arsenal fa schifo o viceversa. Sono andato a vedere troppe partite, ho speso troppi soldi, mi sono incazzato per l'Arsenal quando avrei dovuto incazzarmi per altre cose, ho preteso troppo dalla gente che amo. Ok, va bene tutto, ma non lo so, forse è qualcosa che non puoi capire se non ci sei dentro. Come fai a capire quando mancano 3 minuti alla fine e stai 2-1 in una semifinale e ti guardi intorno e vedi tutte quelle facce, migliaia di facce stravolte, tirate per la paura, la speranza, la tensione, tutti completamente persi senza nient'altro nella testa? E poi il fischio dell'arbitro e tutti che impazziscono e in quei minuti che seguono tu sei al centro del mondo e il fatto che per te è così importante, che il casino che hai fatto è stato un momento cruciale in tutto questo. Rende la cosa speciale, perché sei stato decisivo come e quanto i giocatori. E se tu non ci fossi stato, a chi fregherebbe niente del calcio? E la cosa stupenda è che tutto questo si ripete continuamente. C'è sempre un'altra stagione. Se perdi la finale di Coppa in maggio, puoi sempre aspettare il terzo turno in gennaio. Che male c'è in questo? Anzi, è piuttosto confortante se ci pensi. E siamo andati anche in diretta Facebook stavamo, non me l'hai detto, Pecconi. Posso mandare un bacio? Sì, devi. Sempre per ricordare la gente bella che non c'è più, un bacio a Danilo De Girolamo, Danilo, che interpretava questo pezzo magistralmente, molto meglio di quanto abbia fatto io, un omaggio, che faceva Colin Firth in Febbre al 90. Ciao Danilo, dove sei? Un bacione. Grazie, anche lui ci ha salutato un po' troppo presto. Direi. E allora, visto che c'è un'altra persona che ci sta salutando, forse no, forse sì, nel senso non di vita, che ma di vita professionale, il capitano. Oggi è... siccome è voi sanato. E poi mi piace dirlo a me, come è stato bello lo striscione in curva, nemico di tante date, tante cose, ma un grande campione, insomma bisogna essere onesti. E a lui proprio... Anche la nostra risposta con lo striscione non era male, eh? No, non l'ho visto. Non la conosci? No. Lo stesso lo striscione in curva sud. Dai nemici di sempre un caro saluto al capitano della Lazio, Coso. Non è male, non è male. In effetti ne comunque abbiamo capito. Grande omaggio della Nord, devo sì, dire. No, ma ci sarà, anche se ci sarà un addio ufficiale saremo presenti, perché insomma poi Francesco è una persona che conosco molto bene, ho avuto la fortuna di vederlo anche a teatro da noi, insomma, e poi voi sanatemi, è giusto, perché non è soltanto calcio, è la voce, cioè Totti ha la voce che è quella. Certo, certo. Allora credo che abbiano estrapolato un inizio, un incipit, ringraziamo Sky che sta facendo poi uno speciale oggi al capitano, insomma mi sembra giusto che lo lanci io con tanto orgoglio, perché insomma è comunque italiano avercele delle persone che hanno rispetto dei propri colori fino alla fine della sì. propria carriera, come è stato il grande Bruno Conti. Devo dire che la Roma è stata Bruno. Circondata da queste persone che hanno preferito smettere che lasciare quei colori, no? Ma io ricorderei una cosa di Bruno. Ah sì, posso dire una che cosa? Riguarda quello... Pino. Bellissima. Sì, me la ricordo. Nello spettacolo della premiata. Sì. Com'era, Francesca? Era bellissimo, c'era uno spettacolo che iniziava con la nostra morte, nel senso noi quattro eravamo morti ed era una morte ben poco compianta, insomma, ovviamente era tutto in chiave giocoso. Comica, era tutto scherzoso e chiedevamo, c'era l'intervistatore che chiedeva... Beh, era Cucuzza del TG1, sì, erano tutti personaggi importanti. La notizia la dava Cucuzza e chiedeva a vari amici che si erano prestati a questo scherzo terrificante... un commento, abbiamo avuto i Pooh, Costanzo, Riccardo Magalli, Cocciante. Ma uno più bello dell'altro, e finiva questo commento con l'intervistatore che diceva a Bruno Conti, chiedeva a Bruno Conti un suo parere e lui diceva erano tre ragazzi meravigliosi, tre grandi professionisti, tre amici preziosi, mi mancheranno. Veramente erano quattro? Sì, vabbè, ma uno era da Lazio. Il boato. Ma io pensavo solo a Roma. No, a Trieste, a Venezia, in Piemonte, in Valle d'Aosta, la stessa identica cosa. Per cui, poi quando perse la Lazio, stava, ma testaccio, fatalità, al Vittoria. Come no? 3-1, e dico, avevo rotto le scatole a tutti. No, no, no. Non ci credo. Il giorno prima la pizzeria, tutto anno, perché no, devo reagire, cioè, sperando, chiaro, no? Giochi in fuori casa. Esatto, tanto dico, domani è domenica, questi certo. stanno chiusi, non nessuno. Cioè, il pizzetto c'era la prima comunione del figlio, eccetera. Sono venuti tutti fuori del Teatro Vittoria e mi hanno messo il motorino sull'albero davanti al Teatro Vittoria con una bandiera della Roma sopra. E tutti a applaudirmi. Sembrava il terzo tempo delle squadre di pallacanestro. Io adesso non vorrei dire, ma com'è il derby a Roma? No, ma infatti, quando c'è goliardia, eccetera, è bellissimo. Infatti, devo dire che c'è grande onestà intellettuale. Ti ricordi quando l'anno terribile dei quattro derby persi dalla Roma uno di seguito all'altro? Sì, sì, me lo ricordo. Te lo ricordi bene, certo. L'ultimo derby tutta la curva nord col giornale aperto, stiamo a leggere il messaggero. Sì, leggevo il messaggero, se tutti quanti, io stavo lì ma non c'avevo, non da sapevo piangere. Sì, no, l'ironia bellissimo. È stata sempre sintetica come la risposta della curva sud alla curva nord con lo striscione, bellissimo. Allora mandiamo uno stralcio del saluto di Totti giovane, credo che sia, no, va bene, dimmelo Mauro. Visto. Misto, quanto dura? 8 minuti. Ah, certo, no, essendo lui della Roma finalmente, magari tutto il servizio manda. Allora ascoltiamolo, la voce del capitano che oggi forse saluterà, ma speriamo che giochi, soltanto questo, insomma, se lo merita. Sono e sarò sempre innamorato di Roma perché sono romano, sono cresciuto a Roma e morire a Roma, e poi stiamo parlando di una città più bella del mondo. Il legame tra me e la città penso è come se fossimo tutti fratelli, perché ovunque vado sembra come se mi conoscessero da anni, come se vivessi in casa loro. Forse perché sono romano, romanista, ho sempre indossato l'unica maglia. È una cosa reciproca, un amore che è nato fin da quando ero piccolo. Ma io penso che si era chiuso un po' tutto il sogno che avevo prefissato. Cioè la maglia numero 10, la fascia di capitano. E per me è stato sempre un onore portarla. Ecco, stiamo a piagne, sei contento? È bello, no? Devo dire che ho fatto... sì, ma che comunque io vivo come in un film di Frank Capra, per cui per me la vita è meravigliosa a tutti i livelli. E bisogna essere anche oggettivi nei giudizi, per cui un conto il gioco, Roma-Lazio, eccetera, tutti i giochi goliardici, li sfottò.

Stop. Sette. Grande velocità di pensiero e di gambe. Rapporto cervello-muscolo. Questo è fondamentale. Immediato. Per cui se sei allenato, se stai bene, arrivi al 90esimo lucido. Se sei poco allenato, il cervello... È come lì parlando di un chirurgo, in un attimo di decisione. Se succede qualcosa, se rompe la via, che come fai? Io penso sempre, e la mia stima totale, incredibile, pazzesca, va a quelli del pronto soccorso. Sì, che io ho sempre pensato, ma pensa, ti arrivano 20 situazioni diverse. Rosso, giallo, bianco, devi decidere velocemente. Bellissimo. 8. In tutto quello che fate metteteci il cuore e passione, quello che dicevamo prima, la fame. La cuore, la passione. 9. Dovete essere competitivamente aggressivi e cattivi, ma corretti come i giocatori. Come i giocatori, no, è la stessa cosa. Cattivi. Per cui l'arbitro deve essere, per cattivo qua si intende... No, carattere. Che deve avere carattere. Dai. No, deve essere autorevole. È il professore a scuola, sempre, bambini. Bisogna farsi rispettare. E quando trovi il grande campione... Noi diamo rispetto, perché io ho sempre detto ai giocatori, io ti rispetto, tu mi devi rispettare. E 10. L'AIA, l'associazione proprio degli arbitri, ha una storia gloriosa. Ecco, questo è importante. L'AIA ha una storia gloriosa, l'associazione è gloriosa, va rispettata, che vuol dire dimostrate sempre, prima di tutto, di essere arbitri dell'Associazione Italiana Arbitri. Sanatomi. Bentornati signori, ci siamo ascoltati la voce di Stefano Farina, dove si teneva un minuto di silenzio in tutti i campi. Noi abbiamo preferito per radio il silenzio, è stato questo, insomma, ricordarlo in questa maniera, e cercheremo di ricordarlo sempre. Bello. Sì, ma è veramente persona intelligentissima, proprio non è un caso che ha fatto la carriera che ha fatto, insomma. E va bene, parliamo anche delle vostre carriere che continuano imperterrite nonostante, no, nonostante noi continua. Dritto, abbiamo parlato del tuo teatro. Mio caro dottore, lei mi si trova sa queste cose quando ti chiedono il doppiaggio dei cartoni animati, una voce così caratteristica, particolare. Tu ti diverti di più su un cartone o su un film? Guarda, io ho la fortuna, devo dire che veramente la considero una fortuna, di divertirmi molto in qualsiasi cosa faccia. E questo è il segreto. Cioè, è proprio un lavoro che mi diverte fare. Per cui sì, certo, ci sono le cose brillanti, i cartoni animati particolarmente appunto interessanti, tipo American Dad, quelli per grandi, diciamo, no? Che sono sì, un po' più travestiti, ma sono interessanti grandi e divertenti. Però mi diverto a farlo ed è una salvezza, perché non ne senti mai il peso. Sentiamoci un po' il pesce Klaus, questo pesce col cervello. Poi Francesca è la direttrice del doppiaggio di magari un pezzo con Stan, non lo so, non faccio delle autocitazioni, farò una puntata dove vi intervisterò, farò così, che devo fare. Però sentiamoci il pesce caldo col cervello di uno scienziato tedesco e il corpo di un pesce. Non è uno scienziato, è uno sciatore. Uno sciatore? Sì, ma io dopo 13 stagioni lo scopro. Ma anche no, io mi ricordavo che era uno scienziato. Tu sai che il tuo personaggio lavora per la CIA, sì. E la CIA, quando le Germanie erano divise, per non far vincere un atleta sciatore, quelli che fanno il salto con gli sci, per non farlo vincere alle Olimpiadi, ha trapiantato allo sciatore il cervello di un pesce rosso. E il cervello dello sciatore è nel pesce rosso, che è rimasto negli avanzi della CIA insieme all'alieno dell'Area 51, eccetera. E quindi è un cervello di sciatore tedesco in corpo di pesce rosso. E sentiamolo con la voce di Roberto Stocchi. Finalmente un corpo, voglio essere 1,90 biondo con gli occhi azzurri e con le cicatrici, voglio che la mia faccia racconti il mio passato. C'è rimasto poco o niente, è stato un mese fiacco per i rapimenti, il furgone è ancora in officina, credevano che fosse l'avviamento, ma sono in alto mare. Ok Klaus, se n'è andata. Guten Tag. Dono una meraviglia, a chi apparteneva questo corpo? Al cantante di una cover band degli Earth, Wind and Fire. Suonarono a una festa della CIA e cercarono di farci pagare il doppio. Pessima idea. Tanto per chiarire le cose, appena Francine si stancherà di questa follia dei maffi, nel tuo cervello ritornerà nel pesce. Ya, siamo d'accordo. E adesso preparami questa colazione. Ah, volentieri. Prima voglio chiederti una cosa. Quante uova devo sbattere per riuscire a sbattermi tua mogliettina? Ah, 3 dovrebbero... Danke per i $5,000. Auf Wiedersehen. No, stavamo sorridendo, dice, beh, Stan ci sta per forza, perché c'è sempre, per cui per forza ci deve stare. Puntata spettacolare oggi, grazie per questa ospitata nella premiata, ho sempre adorato Francesca, oltre che per la sua bravura e simpatia, anche per i suoi occhioni azzurri. Wow, wow, ti ipnotizzavano alla TV. Bravissima, viva la prima ditta, Stocchi bravissima, bella accoppiata, mi dice Federica da Palermo. Poi arrivano tanti altri complimenti semplici. Io leggo pure quelli brutti, per carità. Sono rari, devo dire che lo dico sempre, è successo grazie, la prima Federica, puntata, cioè a tutti. 100 grazie. E passa puntate fa, quando abbiamo cominciato, il primo messaggio fu di un'ascoltatrice: oh, finalmente Pino insegno per radio la domenica, così posso accendere l'aspirapolvere e fare le pulizie, visto che avete la stessa voce. Questo fu il primo messaggio, benvenuto a Radio 24. Beh, ma lo sai che portano fortuna. Sì, sì, tu primo, ti ricordi il primo messaggio, la prima telefonata che arrivò a Raffaella Carrà su cos'era? Pronto Raffaella? No, non me lo ricordo. No. Noi non la facciamo, non facciamo la nota. Dire? È una parolaccia, sì, proprio. Chiediamo a Cruciani, come se avessi detto a Cruciani. Vabbè, la interrompo, mi bippo. Sì. Okay. La prima telefonata di Pronto Raffaella fu: pronto Raffaella? Sì, vaffan bip. La prima. La prima. Niente male, poi il successo, insomma. Quindi voglio dire, noi abbiamo fatto Pronto chi gioca l'anno dopo. Però. Esatto. Che pure noi. Portano fortuna. Qualcuno, dai, ha detto dopo la prima puntata o loro o me. Questo dissero e dopo il successo, insomma, il resto è storia. Succede sempre così, insomma, no? Nelle cose ti sarà capitato anche te nel tuo lavoro, come Roberto Stocchi. No. E poi Roberto Stocchi, eccetera. Lasciamo stare il mio signore degli anelli. Qualcuno mi ricorda che ci hanno salutato durante le nostre puntate, che sono state 110. Auguri, auguri. Albertazzi e Paolo Poli, che abbiamo intervistato. Non è questa trasmissione. Abbiamo, caro amico, ti rispondo tranquillamente. Lo dice in maniera carina. Però ti ricordo che abbiamo fatto 112 puntate con circa 600 ospiti. Per cui, insomma, no? Ci sta. Porca miseria. Per cui si sta, l'abbiamo sentiti anche loro, ma questo non significa nulla. Anzi, sono ricordi che finalmente possiamo avere e toccare con mano. Altri complimenti a Francesca e a Stocchi. Nessuno, ma io proprio non. No. Fatti una domanda. Esatto, adesso devo chiedermelo il motivo. Una cosa di Francesca la devo dire: si dice sempre che gli attori comici poi nella vita siano tristissimi, no? Totò, eccetera. Lei no, torna a casa ed è più stupido di quando fa, sì, la, sì, cosa. No, la conosco. Poi la sai. No, sì, no. No, no, lei sarà solo in scena quando io dico troppe cose sugli applausi. Okay. Ah, qui questo però sembra il momento più adatto per ricordare In Your Face. Ah, no, lo ricordo, no, però ricordiamo una cosa: siccome mi piace stare in scena, la Draghetti un giorno mi ha detto a fine primo tempo: Pi, guarda, se vuoi lasciamo una foto tua in scena e dici torno subito. Ma poi puoi uscire serenamente. A questo proposito, posso spezzare una lancia? Sì. Te la spezzo addosso? Dai. Dai, breve, breve. Posso spezzare una lancia? Tu sei uno dei pochi colleghi con i quali ho lavorato che non va in competizione. No, non, cioè, tu no, cioè, il senso dello spettacolo, nel senso che non, ma non è una veramente. No, no, un non è piaceria, non leggo mai. No. Tu, anzi, no. È una cosa bella. Sì, no, ma che se c'è da remare indietro in una stessa direzione, si rema nella, no, stessa, ma poi direzione. Poi Francesca abbiamo sempre spalleggiato Tiziana e Roberto, nel senso abbiamo fatto sempre, quasi sempre, i fini decitori, perché devi rendere plausibile, certo, qualcuno che cazzeggia a più non posso, se l'altro lo fa lo stesso non c'ha più credibilità. Io però lo sketch, devo dire, insomma, una cosa, devo dire una cosa, che Pino ha realizzato uno dei miei sogni più grandi, perché casualmente venne fuori un personaggio assolutamente stupido che facevo io, che era Skipper, Skipper, che era una forma di vieni avanti cretino al femminile. Sì. Che non e è facile, tu l'hai reso possibile, perché, beh, senza di te non sarebbe nato. Quello, e io ce l'ha insegnato le grandi spalle, Agus, ogni grande campanile con Walter Chiari. Insomma, okay, sono... riprendendo la domanda che mi hai fatto prima, dice: ma ti piace fare la comica? Ma ragazzi, cioè, non c'è niente di più bello che far ridere qualcuno. Cioè, sì. È meraviglioso, è una sensazione che si avvicina alla divinità. Cioè, tu a una persona gli hai dato una risata, un sorriso, un secondo di buon umore. Ma cioè, rasenta la magia. Ti ricordi è una i Bramieri, cosa, no? Che facemmo quella serie GB Show, che già stavamo su Rai 1, no, il sabato sera, anche Roberto lo sa, stava con noi con la Lega Brigata. Ci fu proprio quell'anno dedicato alla risoterapia. Ridere fa buon sangue, eccetera, eccetera. Ma è così, insomma, una risata, insomma, li seppellirà. Voglio dire, no? Poi in un mondo dove si pensa a fare tutt'altro, l'idea di regalare anche un sorriso, ma per un secondo a qualcuno, oh. Sì, io mi devo spogliare per far ridere, per cui vabbè, ma questo era il nostro piccolo segreto. Però vedi, in radio potresti fare l'attore porno. Esatto. L'ho doppiato. No, ma te lo ricordi, Pino? C'era un monologo del nostro carissimo collega Pietro De Silva, il pazzo, sì, che faceva un monologo su un mimo alla radio. Ci andava malissimo la trasmissione. Certo, era muta. E questa è grande, grande ironia. Poi c'è il tuo grande amore per Shakespeare. Dove nasce? Vabbè, dici è facile innamorarsi di Shakespeare. Però poi hai fatto degli facile. Spettacoli bellissimi su Shakespeare, sempre grazie. Ironici. Anche il primo, uno dei primi audiolibri. Cioè, era un libro. Era un audiofilm. Audiofilm, sì. Che ha ucciso William Shakespeare. Sì, che ha ucciso William Shakespeare. E dentro ci sono i più grandi doppiatori e attori. E io ho avuto tutti. L'onore, la fortuna, tutti. La meraviglia di lavorare con persone straordinarie, tra cui Cesare Barbetti, sì, che Robert era il protagonista. Reffo. Insomma, vabbè. Meraviglioso. E sai cos'è? Che Shakespeare è una follia. Che non so perché, ma quando poi la proponi a qualcun altro ti dice subito sì, forse è per quello. Sì, che no, funziona. E sei anche un'appassionata di fantasy, questo non lo sapevo. Ti piacciono più i film fantasy? Sei appassionata? Sì, mi piacciono tanto. Vabbè, ma dai, insomma. Tutto dai, ciò poi... che è bello, dai. Io poi se penso che tutti gli horror che mi hanno fatto più paura e mi sono piaciuti di più, li ho visti tutti a casa tua. Ma come? So io che facevo degli horror, capito? Ma sì, perché io dopo, mi ricordo al peggio non c'è mai fine. Il primo Nightmare che abbiamo visto un pomeriggio a casa tua, che mi ha terrorizzato. Eravamo in casa con la luce accesa. Ho capito, accesa, ma c'ero insomma, io col maglione strisciato. Però siete passati a parlare dell'horror legato al fatto che Pino si spogliasse. Esatto. Stiamo andando in pubblicità. È casuale. Stiamo andando in pubblicità, meno male, va bene. Non si parla di misure, di centimetri, ma solo no, di no, decade. No, no, ma no, no, ragazzi, teniamo veramente il livello alto, almeno quello. Prego. Bene, stiamo andando. 10 secondi prima si può andare in pubblicità, vero? Va bene, allora state con noi. Roberto Socchi e anche Francesca Tricchetti rimangono, ma devo fare un brief con loro prima di aprire il quinto e penultimo blocco insieme a loro. Prima di dare il benvenuto a quello che non sa niente della mia vita, che è Fabio Concato. Cioè, mi conosci? Così no, ti voi non ci dovete parlare. Ci siamo sentiti stanotte. Zitto, a tra poco, voi sanatovi. Voi sanatomi. Bentornati signori miei, 15:30, adesso è 31, ecco qua. In your face, in your no, face. No, signor Fezzi, lui dice, face. È una follia che facevo io in tournée con la premiata ditta, dove facevo, impazzivo, in situazioni, impazzivo fisicamente, mi lasciavo andare in un ballo frenetico, in situazioni non ottimali, tipo in un ristorante. Facevi in mezzo il ballerino hip hop, sì, senza avere nessuno strumento per farlo. Esatto. E mi sono sentito male 3 volte, da ridere. Sì, perché su una piazza, tornando sempre a Carpi, che diventa il massimo comune denominatore, preso una rincorsa ballando con un pazzo perché volevo passare attraverso questa siepe nella piazza che c'era questa statua. La siepe era rigida e io mi impuntai, mi sono schiantato sulla statua, capovolgendomi. Infatti in your face finisce sempre addio, sì, dove sui ristoranti mi scivolavo sui tavoli. Insomma, una follia. Grazie. E a Tiziana Foschi ho fatto saltare una capsula prima di uno spettacolo. No, è successo. Questo era... Per questo se non può andare su Marte. No, in your face non mi faccio niente. Però pensa in your face su Marte, Pino. Sì. Che momento altissimo. In assenza di gravità, zoom, domani sul Sole 24 Ore. La prima notizia di Confindustria, Radio 24, in your face. Ma perché in your face? Una faccia tua. Sentiamoci un po' il doppiaggio invece del nostro amico Roberto Stocchi su quella trilogia che tanto ha avuto successo con quel nome difficilissimo. E tu è greco? Sì, lui è di origini greche. Eh sì, Califinia. Non so quale dei tre è della notte, è il terzo, La notte da leoni. Ascoltiamolo, Stocchi. Lo sapevi che a un paio di isolati da qui c'è un posto che è esattamente come Parigi in Francia? Non mi ricordo come si chiama, ma pare che sia magnifico. Si chiama Paris Hotel e Casino ed è magnifico. Sì, è quello. Mi piacerebbe invitarti a cena lì, stasera. Oh, mi dispiace, non posso venire. Oh. Sono stata bandita da quel casino a vita e anche dopo morta. Ci ha portato mamma per il compleanno, giocavamo a blackjack e lei ha perso una mano. Oh. E io gliel'ho spezzata una mano. Dicono che è stato abuso di anziani. Quell'accusa ce l'ho anch'io. Ma a noi che ci frega. Ma non ci posso tornare là. Però il Golden Nugget fa le migliori bistecche della città. Sei tu. È un'idea stupenda. Allora passo a prenderti alle 8. Eccoci qua. Chicca Guadagno. Bella, ah, Francesca Guadagno, non l'avevo riconosciuta, non l'avevo riconosciuta. Scusa, questa è la scena dove lui prima di andarsene si abbassa i pantaloni. Si abbassa i pantaloni. Un cretino. No, è bellissimo, lui è veramente bravo. È dimagrito tanto, ho visto qualche Sì, film. Sì, è abbastanza dimagrito. Però voce ci sta sempre bene. E poi è sempre cretino, quindi. Ah sì, esatto. Voce, quindi, voce volto, dice, perché devi chiamare per questo, come me, su Will Ferrell. Senti un po', ma il tuo attore preferito è Peter Sellers? Peter Sellers, grande amore, sì. Poi devo dire, insomma, ha fatto anche delle cose. Poi veramente... doppiato da Pinuccio Rinaldi, no? L'ispettor Clouseau rimane, rimane uno dei grandi amori della vita. E un altro dei grandi amori è Anthony Hopkins. Eh sì, perché sì, anche lui legato alla voce di Dario Penna, come se fossero la stessa persona. Eh sì, è vero, si sposano perfettamente, no, sono quei nomi. Sono un giorno incollati. Si farà una, ma dicono tutti Pino Rinaldi, e lo dico anch'io, cioè il miglior doppiatore, attore doppiatore della storia del doppiaggio italiano, secondo me. Certo, pure Pino Locchi. Sì, però sai, Pino Locchi, ma sì, qui parliamo di Serie A, comunque sai, di Cimessi, esatto. Maradona, Ronaldo, eccetera. Pallone d'oro sono 15, sì, certo. Capito, non è quello, è che Pino Locchi, però su James Bond tu senti quella voce. Sono tanti, rotonda. Però certo, forse la... Però sai, lui è uno che è passato e bisognerà fare assolutamente una puntata anche dedicandola a questi grandi personaggi che ci hanno insegnato tutto. Passava da Peter Sellers da Matera Rosa a un Marlon Brando, a un Jack Lemmon, sì, con pazzesco. Grande semplicità e con grande diversificazione. Sai che pensavo vocale potesse fare il comune, dedicare tutta la tangenziale perché collega 5-6 grossi studi di registrazione a Peppino Rinaldi. Non sarebbe male. Ci stanno delle vie infatti che non capisco, c'è anche che ho scritto sotto niente, per cui via Mario Brighicchi, che adesso speriamo che non esista. Cioè, adesso che chiamano Mario Brighicchi, chiama quella piazza vicino a casa, piazza Pino Insegno. Bella da vivo, sarebbe fantastico. Io vorrei, questa è una cosa, a me Man on the Moon mi ha segnato la vita, il fatto che quando lui muore c'è il suo alter ego video, lui che parla di se stesso. Sì, sì. Cioè, è una cosa, non lo so, boh, forse pensa che bello, piazza Pino Insegno Cazzaro. Sì, Cazzaro, 1959 ancora in vita. Ancora in vita. Coi puntini puntini. No, ma bello sarebbe, le cose belle sarebbe godersele da vivo, no? Ma era difficile. Come no, certo, che ci dedicano certo una piazza, una via, ma anche vicolo, ma anche la strada chiusa sarebbe. Beh, tu pensa a Totò che è morto in povertà, no, ma come un comico di serie C ed è il sì più grande di tutti. E dopo, si scopre sempre dopo. Noi leggevamo, quando leggevamo le critiche sulla premiata ditta che aveva avuto successo, noi nasciamo come Allegra Brigata, tu lo sai perfettamente, ce n'è anche tu, e esaltavano la nostra realtà teatrale, spaccano la quarta parete, eccetera, eccetera. Poi diventate premiata ditta, non si sono accorti che eravamo sempre gli stessi. Quando rifacemmo lo stesso spettacolo, Giulio Cesare, ma non lo dite a Shakespeare, disse: ho visto il successo televisivo, adesso si rifuggono nel teatro. Non era più un cabaret dadaista ed era la stessa persona. Bene. E io gliel'ho portata la critica, la signora firma del Corriere della Sera, ho detto: guarda, siamo sempre noi. Per quale motivo adesso? No, il varietà è morto, tu leggi dei giornali degli certo anni 70, 60 che dicono il varietà è morto, certo. Walter Chiari gli stessi sketch, eccetera eccetera. Dopo, no, si scopre sempre l'acqua calda dopo, invece sarebbe bello decretare qualche riconoscimento in vita a chi lo merita in vita, in beh, vita. Dai. Perché non se lo godono, sì, se lo godono i parenti e cose, ma in quel momento hanno sofferto anche tanto. Beh, Totò ci soffrì molto per questa cosa qui. Tutti, anche il povero, il grande Massimo Troisi, che giocavamo insieme a pallone nella nazionale calciatori, che racconta com'è andata realmente la storia del Ricomincio da Tre, quando videro la proiezione privata con lui di Ricomincio da Tre, lo dico perché me l'ha raccontato lui, per cui e la delusione è serpeggiata nella sala, non faccio i nomi dei produttori presenti, dopo invece si sono vestiti a festa, ma dissero: vedi, te l'avevamo detto, non puoi fare regista, statica l'inquadratura e soprattutto non si capisce una parola. Dobbiamo mettere i sottotitoli per far capire il tuo napoletano e il napoletano dei tuoi amici e colleghi. Non si capisce niente. Lui andò a casa depressissimo, perché comunque era certo un uomo di una grande sensibilità, una persona inesauribile da quel punto di vista, e anche artisticamente. Uscì di casa solo dopo una settimana, quando un produttore esecutivo, forse il il parente che gli portò, che aveva fatto parte del film, gli portò una, gli citofonò, lui aprì e con una boccia di champagne disse: siamo campioni di incassi in Italia. Lì lui ricominciò a godere di quel io momento. Io credo che comunque sia così dappertutto, nel senso che poi voglio dire, qualunque cosa tu faccia troverai migliaia di persone pronte a dirti dove hai sbagliato e nessuno pronto a dirti dove hai fatto bene. C'è vero. Però poi voglio dire, le cose che succedono sono soltanto quelle che nessuno pensava si potessero fare, no? Se no, non saremmo andati avanti, cioè saremmo nelle caverne a fare gu. Ci piacerebbero perché... le stesse persone, penserebbe sbaglia solo chi fa. Esatto, sì, cioè, per cui... così, ho letto ieri una frase di che poi c'è gente che gode anche a distruggere, è un po' uno sport nazionale. Sì, perché prima ti esaltano quando arriva il certo punto e poi è basta, però insomma è come scoprono. Non ho mai amato il fatto di dire a una persona che è sempre buona, una volta è stata cattiva, dice però quello sotto sotto è cattivo. No, quello è uno buono che una volta è stato cattivo. Invece quelli cattivi che una volta sono stati buoni, dicono quello sotto sotto però è un pezzo di panno. No, quello è un pezzo di panno, che una volta è stato un pezzo di pane. Ma perché poi il libero uso di internet, no? Voglio dire, vale tutto il nickname, di tutto. Dietro il nickname tu puoi dire qualsiasi cosa, esatto. No? Succede spesso nei blog proprio sul doppiaggio, no? Ma io su quello Sbriconos ci vedo bene Sbranis, non sì. Pino Insegno. Ma che, chi sei? No, no, ma infatti, no, io sono stato pure. Dammi le credenziali, esatto. Confrontiamoci. Esatto. Dietro Peppino 78 si cela qualsiasi cosa. Peppino 78, che nome brutto, che nickname. No, no, internet ha avvicinato il mondo, ma ha allontanato le anime proprio. Infatti, ieri leggevo questa frase di Hemingway su un libro, volevo dire che era mia, ma no, perché un uomo lo puoi distruggere, ma non puoi sconfiggerlo. La sconfitta non fa parte dell'essere umano, lo puoi distruggere. Non riguarda la Lazio, perché no. Per dire, vediamo che succede oggi, magari belli quarti invece moriamo quitti, sembra Costanzo. Quanti. C'era una nostra pubblicità presa in giro dei porno quando andavano le telefonate notturne, ma tuttora vanno, io le guardo ogni tanto, guardo per capire cosa dici, Pino. No, io vedo perché vedo tutto, perché poi se dobbiamo scrivere qualcosa, certo, della vita quotidiana devi sapere. Ah, ho sentito proprio una telefonata, ho fatto e c'era Ciufoli che stava al buco della serratura della porta e allora: ehi, stai guardando? Stai spiando? Allora 6144 6144. Che faceva ridere. Facciamo le pubblicità, insomma, abbiamo che fatto meraviglia. Veramente tante cose. Abbiamo fatto quasi 1000 puntate in televisione, scherzando e ridendo. Non vorrei essere una puntata dove io mi cito solo oggi perché ci sei tu. E con tutte le repliche 85.000. No, vabbè, le repliche ancora ci campano con le repliche. È vero, vero. Io invece adesso mi sento e Bugs Life, che è un altro cartone tu hai doppiato. Una bellissima farfalla. E fai la farfalla. Ma la gente sarà stanca. Sentiamo un po' di... Ma no, sei tu l'ospite d'onore. E Francesca. Ma Francesca è come se fosse mia sorella, per cui la sto considerando. Ma insomma, siamo tutti presenti. Ma tu dici come se fosse tua sorella, così non posso citarti per danni. Esatto. Ah, ok. Rivendichi un una parte. Abbiamo rilavorato adesso insieme per 15 notti di seguito. Fantastico. Perché gireremo la notte dentro il supermercato. Lo so. Sei libero la notte, lo sai? Sì, ok, ma pianino con le parole, libero la notte, quindi. No, ma ho capito, dentro il supermercato a Monte Romano. Cioè, non è che ma che stavo... ne sai? Che ne sai? Il supermercato può suscitare. In mezzo ai detersivi alla Draghetti ci laviamo. Sentiamoci questo Aimlish. Ho finito! Finalmente sono una bellissima farfalla! Ma i miei ali! Sono bellissime! Aimee, il carro sta partendo! Ti conviene cominciare a volare! Ma io sto volando! E da qua giù ne pagate tutte delle formicine! Ho finito! Altro tedesco! È un po' Klaus Ciccione! Sì. L'hai fatto più leggero. Dove stai lavorando adesso, Robby? Ma adesso ho appena finito la direzione di Homeland. Ah, che bello che... Sì, che va dal 19 maggio su Sky. Io non ho fatto manco un turno con Homeland. Capisci che è correlata la cosa. Lei non ci sto bene su di lei. Su, ma tu l'hai fatta Claire Danes, l'hai già doppiata in Romeo e Giulietta, è vero, ero io e Pezzulli. Bravissimo. Ho dovuto alleggerire un poco la voce. Che è sesta stagione Homeland. Sesta stagione. Non si può dire altro. Magnifica. Non si può dire che si svolge a New York, fantastico. Basta. E spoiler, basta. Non si può spoiler. No. Ci denunciano adesso. La gente forse non sa che noi firmiamo dei diritti, delle privacy. Se spoileriamo, diciamo una cosa, siamo. Ma io lo trovo anche giusto. No, è giusto. Insomma, non posso dire che adesso io nel Trono di Spade, nella settima non stagione. Lo puoi, no, ma non lo puoi. No, no, no, non lo posso dire, non lo dirò neanche, anche perché non ho capito chi sono. Neanche lo io so. Combatto come un pazzo, ma la cosa più tranquilla che ho detto al Trono di Spade è stato. Per cui che l'hai imparato a memoria, perché ormai sì, ho dovuto leggere perché non sapevo se ha fatto le prove. No, ho fatto una chiacchiera con il frate lì che era Rodolfo Bianchi, per cui sembrava che parlavamo da soli. Sì, lui doveva alleggerire un po', io ero Dortmund, il capo dei briganti di il Barba. Capo dei briganti non lo puoi dire a Roma, lo sai, per cui ero tutto allora, un giorno faranno un film con tre fratelli, te, Rodolfo e Paolo Marchese. Esatto. A me infatti mi dicono, ma fai Peppa Pig? No, no. Non sono io, e poi utilizzo anche altre voci io. Paolo c'è un ospite fra pochissimo, infatti ci abbiamo il vero Peppa Pig, il vero Papà Pig. Quello è applicazione, però tu pure Vita da giungla, tu ci sei? Non sei a Vita da giungla? Dove sei di questi? Non manco te lo ricordi. Di documentari, dici? Ma che documentari? Sì. Cartone animato? No, credo di no. C'è Roberto Targhetti che è il gorilla, Mannella, Massimo Rossi. No, beh, che Roberto Targhetti faccia il gorilla è più che giusto. Sì, esatto. No, dico... no, questo è devastante perché io non posso vedere niente perché certo. Sto sempre in famiglia, ma è una cosa a me mi aiuta col figlio piccolo questa cosa, perché lui ancora pensa che quelle voci siano i personaggi veri dei cartoni, per cui se non mangia, guarda che chiamo Buzz Lightyear, chiamo e tutti i colleghi, tutti amici, come fa la voce di questo, così questo sì, anche lui mi ogni mangio. Tanto deve chiamare qualche bambino e riportarlo all'ordine. Rimanete con me un altro blocco e poi Fabio Concato, va bene? Va bene. A tra pochissimo. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, signori miei. Alla mia destra sempre Roberto Stocchi. Dovevamo cambiare posto, così lui rimaneva completamente spiazzato. Vabbè, spiazzato. Mi giravo e vedevo, insomma, guarda come mi giudica la Traghetti. Io non posso pensare che. Ma non poteva sbagliarsi. 15 giorni di notte, io lei su fuori. C'è una bella donna e un attore a tutto tondo. Era esatto, non si può sbagliare. E Meconi che si aggira intorno. Senti, prima abbiamo fatto a sorpresa quella diretta Facebook con, perché ogni tanto lo facciamo ma non mi ha avvertito, dove ti saresti truccato. Dove Roberto ha letto meravigliosamente bene il monologo di Febbre al 90esimo, Febbre al 90 sul calcio. Se adesso avverto che siamo in diretta Facebook e glielo facciamo rifare, che è da bellissimo. Io sono sempre su quello perché... è memorizzato, mi dice, puoi parlare, c'è un microfono, Meconi, puoi dire te. Metti, parla. È memorizzato già nella pagina Facebook. Si vede che sono uno. Quando tu la tecnologia proprio ce l'hai, si sente che invece ce l'hai. Invece Francesca è sempre stata avanti. Lei c'ha il computer quando ancora Bill Gates non sapeva neanche Ada Berliner 5. Stava ancora coi papiri, mi sembra, Bill Gates. Sì, perché tu sei io, subito PC già... immediato e noi cerchiamo di capire come funzionasse. Mi ricordo le prime sere col computer. Amore, il Mac ha fatto la faccetta. Ti ricordi che faceva la faccetta quando si spengeva male, no? No. Oddio, è rotto. Lei faceva, amore, è un elettrodomestico, riavvialo. Comunque già oltre 2000 visualizzazioni, se ti può interessare. Attenzione. In un attimo. Allora, se lo rifai, è inutile. Inutile, è lì. Possono vederlo quando vogliono. Ti leggerò anche i brani anno. Della mia vita, soltanto mezz'ora. Sì. Invece devo dire che ho fatto questo, utilizzo la radio in forma privata in questo momento perché Mauro, oltre a essere un bravissimo attore sicuramente, ma è un regista, montatore e autore, niente male, insieme a Daniele Prado. E ecco, sex symbol. Sì, no, si sente che bello, però vabbè. E, tutto il padre. È vero, che nella serie, ricordiamo, per chi si fosse messo in ascolto solo ora, non è una riunione familiare di Draghetti, Stocchi, il figlio, e che lui ha fatto Raccontami insieme a Roberto Stocchi, ed era ovviamente il figlio. E abbiamo, che cosa sta facendo? Ha messo l'aria, va bene, no, è una follia. Cioè, non sta mai qui, è entrato soltanto col trenino, con Alessia Navarro, il 2-0 della Roma, hanno fatto il trenino. Dai, vabbè, questo... Scusa, ripetilo che siamo in diretta a Facebook. Invece di mantenere una sono belle parole, serenità, tranquillità, sì. E fa stare il... no, 1-0, hanno detto no, 0-0, tranquillo, conduci la trasmissione, invece era 1-0. Sul 2-0 non hanno retto e sono entrati a fare il trenino come il Bari. Ma cioè... volevamo tutelarti, Pino, tranquillo. No, era per te. No, devono lavorare in una radio provinciale e basta. Io non si rendo conto che andiamo in tutta Italia e grazie a internet in tutto il mondo, no? Allora, i podcast li ascoltano. Dicevo che con Mauro regista ci siamo avventurati in queste 10 puntate che andando ormai il web è il futuro del mondo, in questa web series che è Mamma Nero, sono 12 puntate girate, devo dire molto divertenti, da 3 minuti e mezzo, e lui si è lamentato che io non imparavo a memoria le cose, Francesca. Però io dicevo, ma guarda, no, non ci credo, non è da lui. Ecco che cosa succedeva tutti i giorni. Pino, facciamo una prova, almeno vediamo le battute. Le so. Ok, proviamo. La provavamo. Hai visto cosa? No, Pino, non ha detto una battuta uguale. Vabbè, il concetto! Il concetto! Perché lui ha paura di perdere in spontaneità. Esatto. Ma poi le ho fatte, come diceva lui. Solamente le imparava a forza di rifarle. Capito? Questa. E noi purtroppo... Spiega meglio, qui... dove andranno, come, qui... No, la web, Mamma Nero. Sì, ma sarà web, quando uscirà la cerca Digita e le sue. Esatto, Digita Pino Insegno, grande attore che compare. Ma non lo fa tutti i siti, mi perderò. Esatto. Detto così era credibilissima, Stocchi. No, non era veramente credibile. Tu invece stai finendo di dirigere American Dad, la 13ª stagione. Evviva. Perché lo so. Ho appena finito l'ultima di Two Broke Girls, che è molto divertente. E, Purellino, c'è una scusa perché sono tutte donne e non mi chiama, però tu perché costo troppo? No, è che io faccio soltanto neri, allora io... comunisti, romanisti, desaparecidos, romanisti. Io mi sono di Monteverde, stanziale e abbronzato. Vabbè, ho capito. Dai, Pino, tu c'hai la bella voce, io ho questa voce da sassofono, dai. Esatto, ma devo sporcare la voce. Guarda, la rendo pure brutta io, Non è possibile. È vero. No, è vero. No, c'hai ragione, È vero, è vero. No, dai, non ci credo, mi alzo e me ne vado. Esatto. Come... No, non lo fa, Pino. Basta. Come sono brutto. Non ci... Ma Pino no. Digli con le parrucche anche, non cambio no, le virgola. Lui niente. Perché quella che c'è adesso che? Ah no, scusa. Sono l'unico che mette parrucche da 2000 euro e si vede nei capelli. Comunque si intuiscono. Cioè, no, non so, l'effetto è sempre quello del catino. Non sì, si capisce esatto. Perché. Un gatto morto in testa. Se nascevo De Niro mi morivo di fame, ma veramente. Guarda, allora ho fatto puntata una cosa in teatro tempo questa. Fa. Abbiamo fatto una puntata dove abbiamo fatto un talk su di noi. Scusa, faccio una cosa in teatro, devo andare a fare le prove a Fiumicino, mi ero tinto i capelli. E adesso senza, non è che la faccia mia denuncia un diciottenne, no? Mi ero tinto i capelli, io ho i capelli bianchi, e vado al McDonald's, mi fermo e era più bassa della casa dove stavo io, e allora prendo questo e la cassiera mi guarda e mi fa: vuoi anche l'Happy Meal, tesoro? Ma dico, non è possibile, dai, no, guardami in faccia, hai una voce più leggera, ma insomma... sì, no, però voglio dire, no, vuoi l'Happy Meal, tesoro? Vuoi l'Happy Meal? Dai. Ma perché? Comunque c'era tutta la gente voleva farsi le foto con lui con i capelli tinti. Con la ricrescita sotto, sembrava per il Rocket, c'è presente quello? Che cosa brutta. Cosa brutta da raccontare. No, quello assolutamente no. Draghetti, ci prepariamo, dobbiamo dormire il giorno, te lo dico subito. Vabbè. Ma non sì, insieme. No! Allora, io no, te Stocchi. Allora sono pronta. No. Figlio allora... mio, quante no, cose brutte Stocchi, si no. No, quello assolutamente no. Le partite sono cominciate. Io dopo, siccome c'è Fabio Concato, saremo molto attenti, eccetera, non mi vedrò collegare. E come sono? Che sta succedendo per adesso? L'automobilismo, per esempio, Monaco? Devo chiamare mai una gioia, dai, che sta su. Voi non sapete niente di là, ma giustamente Alessandro sta... Vela, che succede? Il canotto. Senti, il curling. Tengo molto al curling. Il curling è molto interessante. Il Cagliari vince 1-0 col Milan. Intanto. Dimmi che è gol di Joao Pedro, che ce l'ho al fantacalcio. Te lo dico subito, maestro. Te lo dico subito, maestro. Poi ci dico di parliamo Pedro. Italiano. Joao Pedro. Capisci? Eccolo, vedi? Ma io non ci ho mai capito niente di questo fatto. Non posso dare una delle sue. Ti basti sapere padre. Che se vinco oggi non pago la cena perché sono penultimo e quindi. Ah, stai lottando per la medaglia. È molto importante, di legno, è una giornata importante. Altro legno. Che Capitan Totti. E mi dicono qui una papera di Donnarumma, altro che 70 milioni. Perché qui la gente subito entra. È entrata sì, la papera sì. di Donnarumma? Sì. C'aveva un animale. Che ne so? Ancora papera di Donnarumma, ma quale 70 milioni? Vabbè, papera 70 milioni. Solo quelli sta giocando soltanto. Sì. Al momento è in vantaggio solo il Cagliari. La Roma gioca alle 18. Grande gioco Pedro, ho un appuntamento col capitano alle 6. Comunque sì, è esatto. l'unica partita perché dopo giocano alle 6 la Roma e la Samp e poi tutti stasera. Esatto. Esatto. Tutti gli altri che non contano. Sì, ma il Carling quanto sta? Non lo sa. Carling è stato settimo tempo 14-2. Lo vedi? Sì, lo sapevo. Bene. No, rimane ancora sono due minuti per stare insieme. Quindi... Volete utilizzare questi microfoni per gratificare qualcosa o qualcuno che avete nel cuore? Gratificare. O ringraziare o salutare qualcuno. Qual è stato il tuo sliding door? Dove è cominciata la tua carriera? Detto, mia sorella ha fatto l'esame di teatro a posto mio, quindi sai. Per lei che ringraziamo. Tu devi sì. ringraziare tua sorella. Io dovrei ringraziare mia sorella. È la prima persona che ha creduto in te artisticamente. Ma guarda lei, perché lei ha detto: guarda, io ho fatto questa cosa, ma non mandava. Vai tu che sei così spiritoso, cretino. Ha detto anche cretino. Disse anche cretino. Fai teatro. E tu, Draghetti, purtroppo la nostra vita combacia in tutto e per tutto. Noi io ringrazio la premiata ditta. Vuoi che canti Dio tra di voi di Aznavour? Esatto, ma beh, anche noi. Tu fai Aznavour. No, era il 1979-80 quando io ero poi tristissimo perché ci hanno tolto un teatro da professionisti. Tu ti ricordi come è cominciato tutto quanto? Con un disastro. Un disastro. Cioè, sì. È cominciato in una delle giornate più brutte della nostra vita. E lei, per tranquillizzarmi, che faceva anche la coreografa costumista oltre come a essere. No, certo. L'attrice costumista, sì, la sarta. Cioè, li facevo mi costruì la prima tunichetta di Giulio Cesare e Manon di Shakespeare fu la mia col mantello azzurro. Allora perché io mi tranquillizzai molto dopo che ho menato il proprietario del teatro Aurora, che adesso non esiste più e che spero anche lui non è una cattiveria, ma ci mise in me. No, ma era già anziano, scusate, non volevo augurare la morte a nessuno. Era già un uomo di 75 anni all'epoca, che ci chiuse in porta in faccia il teatro che ci aveva dato per fare il salto da professionisti e invece lo diede al dopolavoro da ASIP. E però noi rimanemmo senza teatro, senza quella possibilità, ma poi si spalancò il portone del Teatro Centrale e poi insomma, ripensarci, ma che bello che è stato, che è bellissimo. Al teatro Piazza Mancini c'era il Teatro Tenda, io andai lì a chiedere anche qualcosa, mi liberarono i cani. Sì, è vero. I cani. Una cosa dire, la vogliamo una, dire. No, posso dire una cosa? Prego. Che una vita passata a cercare di far ridere gli altri, a volte ci riesce, a volte no, ma è una vita bellissima, è una vita meravigliosa. Quando ci riesci pure. Io invece una cosa la volevo dire. Abbiamo 40 secondi. Ministro Franceschini, salviamolo il teatro in Italia, sì. Però. Io vorrei avere anche ci lui. Vuole, so che si spende, ma va fatto in una direzione un po' più forte verso le piccole compagnie. Le sì, medie non compagnie. Dare magari tantissimi soldi a una persona che magari rischia non, di tenere fuori. Non badiamo tanti solo altri. Al grande, il teatro parte dal piccolo. Sì. E là la formazione. E ricordiamoci, ci sono tanti colleghi. Ci sono dei corsi di formazione che si possono fare. Abbiamo fatto un format meraviglioso che erano i teatri di cintura, le compagnie dell'anello, dove si può dare lavoro a tante persone. Ma ci sono, è vero. Chiederollo al ministro, visto bravo, che c'è la pubblica sezione, porteremo Franceschini qui. Grazie Francesca Draghetti. Grazie Benuccio. Grazie Roberto Stocchi, grazie a Maro Meconi. Grazie a tutti, ma non è finita la trasmissione, Alessia. Ovviamente tra pochissimo c'è il GR e subito dopo Fabio Concato. Ciao, grazie, a tra poco. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Boys Anatomy. Bentornati, signori miei. Allora, prima di presentare il nostro ospite, voglio leggere una cosa che lo riguarda e vediamo se indovinate. Domenica ti porterò sul lago. Vedrai, sarà più dolce dirsi ti amo. Faremo un giro in barca. Possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Sapessi, amore mio, come mi piace. Partire quando Milano dorme ancora, vederla sonnecchiare, accorgermi che è bella, prima che cominci a correre e a urlare. Che domenica bestiale, la domenica con te. Ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore. Com'è bella la natura e com'è bello il tuo cuore. Che meraviglia stare sotto il sole, sentirsi come un bimbo ad una gita. Hai voglia di giocare? Che belli i tuoi complimenti. È strano, non ho più voglia di pescare. Amore mio, che fame spaventosa. Deve essere quest'aria innaturale. È bello parlare d'amore tra un fritto e un'insalata e dirti che fortuna averti incontrata. Che domenica bestiale la domenica con te. Ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore. Com'è bella la natura, ma com'è bello il tuo amore. Che domenica bestiale. Eccolo qua. E allora vi lascio indovinare, Renato Zero, Claudio Baglioni o Fabio Concato? Fabio. Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio ciao, a te, buon pomeriggio ai tuoi ospiti, sono degli straordinari musicisti, i fratelli di Sabatino. Ciao Pino, grazie. Tu suoni in trio, ma loro sono un duo in questo momento. Il sì, manca il terzo, che è Marco Siniscalco, che è il bassista. Non essendo, è il bassista, aspetta giù. Bassista, sì, quello che mi aspetta fatto. Giù. Questa è una bellissima avventura, io incontro tra i Fabio tanti anni fa e l'affetto è rimasto profondo. Sì, ma tanti. Io mi ricordo, tu mi raccontasti poi tutti gli aneddoti che riguardano una persona conosciuta agli inizi, che uno gli ha detto in un piccolo centro fuori Roma: che niente sei con Gader Candande? Che sì, mogandi quinto piano? E io ho riso un'ora, non ho mai dimenticato sto racconto di Fabio. È vero, ma poi anche l'avevano pubblicato, no? Sì, no, su un noto quotidiano. Beh, sì, tra, era uscito. Sì, tra le canzoni più illuminanti c'è sicuramente Quinto piano. Tu, sì, è una delle più famose. Lui faceva il lift prima. Cazzo, molto piano. Prima sì, Quinto piano, certo, anche certo. Roma Capoccia ti chiesero una sì, volta. Sì, sì, certo. No, ma poi ce la fai domenica, maledetta domenica. Esatto, cioè. Anche noi siete del quartetto del trio. Sì, il fatto decida, signora del trio, sì. Il gabbiano di maggio. Facci il gabbiano di maggio. No, beh, questo ovviamente è un gioco, perché l'ironia fa parte anche, soprattutto, dei grandi personaggi. Fabio, raccontare la tua storia non basterebbe veramente. Non perché tu sia una persona anziana, perché hai fatto tanto, ah, carino, hai scelto di venire carino a questa trasmissione per affetto. Da, beh, ma soprattutto perché no, si racconta, certo, si racconta la voce qui. Sì. E tu sei una, a quest'ora tu dici sono Donald Duck. Ma dai, no, la voce tua è irraggiungibile, sì, da un certo punto di vista. I tuoi decibel sono affascinanti. Ma ti ringrazio. E questa molto scelta, ma non è piaggeria di trasmissione, questa scelta di jazzare, hai già fatto un'altra volta un esperimento, sì, tipo con le tue più belle canzoni. Io posso sentirne una, la dichiaro, certo, io quale voglio sentire, direi, non perché, è che... perché credo ti riguarda anche molto da vicino. E a me è sempre piaciuta tanto, quando apre poi mi è sempre venuto un grande brivido. E racconta, sì, di tuo papà, credo. Gigi, sì, per cui io, sì, vorrei, Gigi, saluto Alessandro e lo ringrazio. Vai con Gigi. Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così. Non capivo che lingua parlasse, ma mi era simpatica. E riempiva la stanza di note e di poesia. E tu eri lì con me. Che cercavi di segnarmela, mi dicevi hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America. Certo che a vedere te sembrava facile. Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica insieme a te. Ti ricordi quella velina sopra il pettine? Ci cantavo e venivano suoni un po' caso. Tu suonavi, vi levas dicendo: quest'uomo è un fenomeno, certamente, ma qui ce n'è un altro, e sei proprio tu. E stavi lì con me a giocare con la musica, e pensavo la mia vita forse è questa qui. Ma tu giurami che un giorno suonerò così, e suoni così bene che mi viene da ridere. Oh no. Era il tempo in cui cominciavo ad amar la musica e amavo te. Chi è Gigi, Fabio? Gigi è mio padre, ecco. Mio babbo, che mi ha fatto ascoltare quando ero molto piccolo molta musica, e soprattutto la musica jazz e quella brasiliana. Eh beh, non si sentono infatti, quindi, questo no. Sentore di musica sud non si sente, sai? No, non perviene. No, non arriva. Meno male che me l'hai detto e ce l'hai detto, sì, Fabio, perché non... Però ecco, è stato lui il responsabile. Perché tu sei figlio d'arte da questo lato. Sì, sono figlio d'arte, anche se poi lui si occupava, sì, di tutt'altro. Di altro, non cantava. Non cantava. Però avevi i nonni cantanti lirici, avevi? Sì, o sbaglio? Sì, sì, la nonna e il nonno erano due cantanti lirici, anche di una... come dire, di un certo spessore. Esatto, parlavano così, per cui mettevano, certo, incutevano anche un po' di no? E il dottor Di Sabatino invece sono fratelli d'arte, e papà e mamma invece vostra papà musicista anche lui. I nonni, un nonno violinista, un nonno trombettista, compositore, quindi diciamo che questa cosa ci accomuna. S'attacca, è una febbre, sì, meravigliosa, è uno dei pochi virus in cui bisogna fare i vaccini. Comunque, ascolta, volevo dire, faceva il rappresentante mio padre, ma era un ottimo musicista, e non lo dico io, lo dicevano anche i musicisti, certo, jazzisti dell'epoca. E poi, ma anche se non l'avessero detto loro, io sapevo quanto valeva. No, ma al di là del fatto che fosse mio papà, certo. Cioè, proprio è un grandissimo uno, credo, il più grande armonizzatore d'Italia. Che essere armonizzatori, perché la gente armonizzare è la cosa più complicata del mondo. Sì, in tutti i sensi. Sì. Anche in famiglia armonizzare non porca è facile. Miseria, lui è riuscito anche in questo. Sì, abbastanza. Però ti ha dato questo amore profondo. Ma poi profondo, con la musica, insomma... Anche la famiglia ne ha risentito, no? Bene, insomma. Tu sei figlio unico oppure hai fratelli? No, un fratellone più grande. Più grande. Che ha 3 anni più di me. Lui, sì, è stato attaccato da questo virus oppure... Sì, lui è un musicista anche lui, ha suonato la batteria, poi si è stufato e poi vabbè, insomma, adesso... ha fatto il giornalista per 40 anni. Ma adesso cambierai batteria, occupa... gli oggetti, per chi se ne frega. Cioè, non è... Però ecco, è uno che ama come tantissimo la musica, il ritmo. Anche lui, sì. Bella questa cosa, è meravigliosa. Infatti questo album è sentito anche... Gigi, che è Fabio Concato, Paolo Di Sabatino in trio con fratello e annesso bassista Marco. È un disco bellissimo. Io sono arrivato già col disco in mano perché ci tengo. Voi sapete quanto io ami la musica e la voce, e questo è straordinario perché è una fusione magica. È un modo diverso di offrire un passato. Mi sono fatto un bel regalo, devo dire. Sì, ti sei fatto un bel regalo. Sì, c'hai fatto, sono arrivato a 40 anni, dico, beh, prendiamo qualche titolo, prendiamo. Poi ci ha pensato Paolo Di Sabatino, ha scelto lui. C'è il badante, hai fatto il badante musicale, ti sei certo costruito. Ha scelto le cose e abbiamo detto, beh, facciamola, arrangiamola, arrangiamo il progetto in chiave jazzistica, è venuta fuori sta roba. Bene, adesso però restate con noi un attimo di solita, certo, pubblicità, e continuiamo con il nostro duo Di Sabatino in trio, ma con l'amico Fabio Concato. A tra pochissimo, amici, grazie. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, Voice Anatomy. Ancora qui vicino a me, alla mia sinistra, Fabio Concato, e alla mia destra i fratelli. Eccoli qua, tutti e due, Di Sabatino. Pronti? Siamo qui presentando questo album straordinario che è Gigi. Dai, sono non esagerare. No, no, è bello bello. No, no, no, ma lo sanno, io non prendo in giro nessuno. No, c'è, no, ma lo so. C'è niente di peggio da Serbacetto, fa come stai? Cosa stai facendo ultimamente? Ma sto giocando anch'io. Lo so, ti conosco. Proprio questa forte ironia che ti contraddistingue sempre, perché non ti sei. È il segreto della vita, non prendersi sul serio. No, no, mai. Mai. Mai. Mai. Siamo vita. I primi a giocare con mai, noi stessi. Mai. E tu ci hai giocato, tu hai cominciato, e mi piace ricordare, tu eri uno che del coro ha costruito le musiche di Atlas UFO Robot. Sì, le ho cantate, nel senso che io ho cominciato doppiando i porno e lo dico. Sono arrivato a oggi. Cioè, però il tuo è meglio, il mio inizio è meglio il tuo inizio. Però anche quello tuo. Li facevo, ma se l'avessi fatti ero un buon caratterista, Fabio. Invece ero solo voce. Se li facevo, facevano. Erano divertenti anche quelli. Ma non c'era bisogno di caratteristi. Però tu hai fatto la versione che poi hai risuonato in una trasmissione bellissima che è Anima Mia. Insieme a Baglioni hai gorgheggiato Atlas UFO Robot. E io due righe me le ascolterei, dai. Ce l'avete? Ce l'abbiamo. Si trasforma in un raggio missile con 5 tiri mille vapore. Dare stelle, sprinta e va. E mangia di brividi. Sentito che ritmica che c'è qua sotto, eh? No, che c'era? Are Stavolazzi al basso. Sì, c'era. Sì, c'era Nathan Nesta al basso e c'era Maynard Ferguson alla tromba. Alza il volume. Respirare l'aria cosmica è un miracolo di elettronica, ma un cuore umano. Comunque posso confessare una cosa. Beh, sì, a parte quello, bello o meno bello, ma insomma io devo ringraziare Tempera, perché in quel periodo, stiamo parlando del 1978, io spesso non avevo i soldi per pagare l'affitto. Lui ogni tanto mi convocava come corista, certo. Anche se non lo ero, perché io non sono un corista. Ma tu sei una prima voce, però, caratterista proprio, però bella. In mezzo agli altri ha funzionato sta cosa. E poi quei due mesi lì io sono riuscito a pagare anche l'affitto. Con Atala su Forobo, prima e seconda stagione. Anch'io quando si ama mi pagavo. Ma scusami. Ma va benissimo. Non hai proprio lesinato niente. Il primo grande successo è arrivato Domenica Bestiale, sì. Sicuramente, che è stato lo startup 82, che ti ha proprio, cioè quell'album con Cato e poi Senza Avvisare, poi un successo dietro l'altro. E c'è stato un momento molto bello che volevo ascoltare, questo duetto con Baglioni, molto divertente, fatto da due grandi, è veramente interessante e intelligente. Stando un duetto con Pierangelo Bertoli che vorrei assaporare un attimo. Chiama piano. Chiama sì. piano. Credi d'essere solo su un atollo in mezzo al mare, quando soffia la tempesta e hai paura di annegare, chiama, chiama piano, sai che non sarò tu, chiama piano ed arriverò io in un attimo, quell'attimo anche mio. Quando crolla il tuo universo tra le righe di un giornale, quando tutto intorno è perso e hai finito di sperare, chiama, chiama piano, sai che non sarò lontano, chiama, tu chiama. Questa è voce, nella voce, quando uno è un interprete e riesce a raccontare storie con la sua voce, è magnifico. Che botta riascoltare, vero, con Pierangelo Bertoli, una botta vera. Sì, e ancora, sono quelle cose che resteranno per sempre, cioè, l'interpretazione è la cosa più importante. Assolutamente, veniamo fuori noi, no? È quello, esatto, che poi dicevi tu all'inizio. Questo è concreto. Non sì, può certo, essere un altro, certo. No? Il gioco, uno si indovina chi è quello, sì. È un timbro vero, è un timbro dell'anima, è un marchio, sì, veramente, sì. Ed è fantastico. E tu poi hai sempre alternato momenti così importanti a momenti più leggeri. Poi tu hai cominciato, la cosa non la sapevo, con il derby di Milano, cioè, sì, non facevi comico, però curavi. No, non mai rubato, facevo il l'attore, facevi l'attore, però. Sì. Facevo la parte di un industriale milanese. Sì, sì. Capito che aveva un po' la voce così, no? Viene qua, l'antitesi viene... di Fabio, sì, da questo, sì, punto di vista. Ma infatti mi piaceva molto perché potevo dissociarmi, esatto, no? Potevi essere Smigolo e Gollum tranquillamente. Esattamente. Il mio tesoro. Con Giorgio, con Porcaro. Eh sì, con Giorgio. Che faceva il Terroncello, no? Sì, sì. È lui che poi inventò, certo, quel modo di parlare. Sì, non Diego, sì, con tutto, no, rispetto, no, no, per ma, Diego. Ma assolutamente. Ma Giorgio inventò quel, sì, modo di parlare, sì, sì, violenza, eccetera eccetera. Per cui questi inizi mi hanno entusiasmato. Spendiamo due parole, perché non basterebbero due parole per la famiglia di Sabatino. Grazie. Cioè, ho capito, ma c'hai una biografia, sembra fare un coccodrillo, invece c'hai ancora 30 anni, cioè, sì, ho capito, magari, ma vergogna, vergogna. Perché ho iniziato presto, mi ho capito. A 6 anni mi ha messo su. Tu sei di Teramo, eh? Sì. Sì. No, no, conosco bene, ci ha giocato un po' anche mio figlio a pallone lì, allora conosco la zona. Fantastico. Sì, qualcuno diceva, perché sto giocando qui a Teramo? Ma dico, perché la chiamate così? Perché è scura, piove sempre. No, invece è una Teramo. No, ma la gente è così, ma era gente di Teramo che me l'ha detto. Sì, sì, no, ma questa, anche questa è grande. Hai suonato con chiunque, non hai suonato con me? Te faccio prima. Intanto. Con me e altri due. Se vuoi, però ti scrivo le musiche per uno spettacolo. Sì, è l'unico modo per cercare di mettermi, perché manco soltanto io, cioè, perché un grande piacere, ma piacere mio veramente, perché hai lavorato poi con attori importantissimi, sì, sì, che vanno da veramente da Ugo Pagliai a Paolo Gasma, a Sergio Rubini, a Castelnuovo, a Marinoni, Alessio Boni, amico Boni, è strepitoso, forte, Edoardo Alessio. Sirao, sì, sì, persone, sì, anche Albertazzi ha suonato, anche sì, ai suoi 90 anni, sì, ho suonato io il piano. Giorgio, abbiamo avuto la prima puntata l'altro anno quando cominciò Voice Anatomy, perché vedi. Giorgio era un grande amico, e stimatore, la prima puntata. Eravate amici? Sì, voi, molto. Avremmo dovuto fare insieme un rallier. Sapevo che non stava ancora bene, però insomma. Sì, però lavorava ancora. Lavorava sempre, ha detto, Pino, facciamo rallier, tu fai il full. Ho detto, magari, Giorgio, volentieri, abbiamo aspettato un po' troppo, un anno di più, ma insomma. È già stato il piacere avere come compagnia ogni tanto l'ironia e la forza di Giorgio Albertazzi, un'altra persona straordinaria. Io ci ascoltiamo un altro momento di questo bellissimo album, Stazione quello Nord, che vuoi. Ma io con grande sentire, piacere, dopo ne sento anche altro. Quanto grande dura? Perché io voglio sentirlo quasi tutto. Ma poco, quello 9 minuti e 40. Va bene, perché già se tu mi fai questi arrangiamenti di Sabatino si scorda che ci sei e fai free e va, capito? Vai con Stazione Nord. Magari ci vediamo o ci telefoniamo, ma io credo di no. E lacrime sul bavero e piange anche Milano alla stazione Nord. Non so che cosa dirti, non so come spiegarti, non so proprio niente. Non credo più di amarti, ma come posso dirlo in mezzo a questa gente? E piove sui lampioni, sui treni colorati, e piove su di me, che ancora non capisco cosa sarà domani, svegliarmi senza te. Però ti prego adesso, nessuna decisione, perché ne morirei. Ti posso dare un bacio, sai che lo vorrei. Ti aspetterò domani se ci sei. e penso a cosa è stato. Ti ho amata così tanto e tanto e ancora niente. Potessi almeno piangere, ma come posso farlo in mezzo a questa gente? La vedo allontanarsi, sparire nella pioggia col suo berretto blu. Tu la guardi ancora da dietro il finestrino, poi non si vede più. Avrei voluto dire che lo puoi trasformare domani il tuo dolore in una storia grande, come la vuoi tu, per non guardarla andare via. Beh, signori, questa è atmosfera fumosa, meravigliosa, da jazz, da notte, da Alexander Plaza. Ma da... sti jazzisti. Sì, gentaccia. Fabio, tu hai scelto in piena coscienza? Oppure assolutamente, sì. Puoi adesso ritirare il disco, le copie di questo Gigi in giro? Non puoi più farlo. No, ahimè, non posso più, ormai è tardi. I fratelli di Sabatino, poi denunciali. Di Sabatino, che è un altro. Si chiama, i fratelli di Sabatino, legati. Sabatino, sì. Esatto, non sono i fratelli, uno si chiama Mario Sabatino, sono proprio loro due. Cioè, tu non puoi neanche non puoi fare più niente. No, non posso più fare niente. Per cui è venuto anche bene il disco. Però. È venuto bene, e poi vengono molto bene i nostri concerti. È quello. E stiamo molto bene tra di noi. Sì, però quando tutti scocci, che è il vero valore aggiunto, secondo quello me. Sempre, cioè, il gruppo, guarda, l'amicizia, hai vinto assolutamente. Resta con noi, resta, di Sabatino, tutte e due. Ci il siamo, fratello sì. Lo doppi tu oppure parla? Ma lui va, ok, perfetto. A tra pochissimo con Fabio Concato, è il doppiatore del fratello di Sabatino. A tra poco. Un cordiale saluto da Armando Torno, musica maestro di questa settimana sarà dedicata a voi cari ascoltatori, alle lettere che ci scrivete, alle domande che ci ponete. In particolare parleremo della Callas, di un eventuale figlio che ebbe, di nome Omero, dei misteri che lo avvolgono e delle tante cose che si sono dette e scritte. Parleremo anche di Haydn, parleremo di Telemann, parleremo di Rachmaninoff e di Chopin, un Chopin rivoluzionario. A risentirci dunque questa sera alle 21:15. Un cordiale saluto da Armando Torno. Sanatomi. Bentornati signori miei, voi Sanatomi, il vostro Pino Insegno qui ai microfoni di Radio 24, ma soprattutto ai microfoni di Radio 24, Fabio Concato. Quella, ecco, quella. È un po' che ti pensi, no, adesso è togliato il milanese, vero? Di Sabatini, tu poi siete di Teramo invece. È bello, il plurale, plurale. Di Sabatini, perché sono due. Sono due. Sì. Sì. Sì. Di Sabatino, e i fratelli di Sabatino. O di Sabatinos. Di Sabatinos Brothers. Caro Paolo, tu che mi suoni il pianoforte, sei l'arrangiatore di cotesto sì. Album. Sì, esatto. Il tuo fratello viene con te perché a casa non lo vogliono oppure anche lui partecipa? No, mia mamma mi ha chiesto di toglierglielo dalle scatole. Perché insomma lavora, cioè, sì, perché sì. Fabio Concato, musica e parole, gli arrangiamenti sono tuoi, tuo fratello suona la batteria. Pensa, cioè, per te deve essere stato un dramma, che a casa la chitarra si può suonare. Sulla spiaggia, no, tu un po' portare la batteria a suonare la canzone del sole. Però sono batterista autodidatta. Per cui hai rotto le palle a casa proprio dalla mattina alla sera. Tantissimo. Sì, sì. Cioè, più che altro ha detto tuo fratello, portatelo via. Gli hanno chiesto, esatto. Tu che hai studiato, portatelo via. Mio padre anche a me mise sul pianoforte. Ma non hai accettato. Dopo 3 anni l'ho lasciato, però gli dissi, papà, guarda, vorrei suonare la batteria. E tuo padre disse, non se puoi più suonare, salutato. C'è il pianoforte. Esatto, quindi, se no, batteria, quella è la strada. Esatto. Era inaccettabile per no, lui disse, vabbè, sì, se puoi suonare, sì, per lui. Un altro momento molto bello, Fabio, della tua carriera, a parte tutti i grandi successi, è stato anche quando hai regalato quel bellissimo brano al Telefono Azzurro. Ah, sì, beh, quello perché è stato un momento molto importante. Sì, sono quei momenti non solo importanti, che raccontano e che lasciano e che soprattutto vendono. E gratificanti anche. Sì, perché sì, non era io, è come USA for Africa, non è dici soltanto un pezzo bello, ma ha aiutato veramente perché il pezzo ha venduto, insomma. Non è un'operazione commerciale per attirare l'attenzione su di te, ma il contrario. È il contrario, è stato, sei tu che hai fatto da talent e da traino a un telefono importante. Veramente molto, molto sì, bene. Hai camminato. Mi fai ascoltare, ascoltare qualche momento, vi ringrazio. Tutti fermi in fila ad aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radio lì, che sentirla è uno spettacolo. Guarda che ti ho visto con le mani dentro il naso, sei romantico. E poi la stessa mano te la passi tra i capelli, sei fantastico. Ma quanti manifesti colorati, così grandi, non li ho visti mai. Che gambe deliziose, sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta, carte igieniche lunghissime. Sentissi come morbide ogni volta, viene voglia di cosare. E all'improvviso arrivi tu, un manifesto in mezzo agli altri. Su quel faccino quanti pugni, quante botte, ma lo sai che ti potevano ammazzare. Babbo, smettila di bere e non mi picchiare un'altra volta, che ogni volta ho più paura e quando cerco di scappare non arrivo mai alla porta. Mi raggiunge sei una furia, non c'entro niente coi tuoi guai, non c'entro con i dispiaceri, non ti ricordi ieri che mi portavi al mare. Siamo ancora fermi ad aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina, che sentirla è uno spettacolo. Guardo il mio vicino e lì tranquillo, tramortito dal suo stereo. E arrivano frequenze così basse che divento tachicardico. Ma quanti manifesti colorati, così grandi, non li ho visti mai. Che bel momento questo, emozionante, Fabio. Accidenti. E soprattutto ti dicevo... poi che sei tornato anche sì. Con Azzurro, con Azzurro Concato, sì. A parlare sì, di sì. Telefono Azzurro, certo. Anche più avanti. Sì, anche mi raccontavi perché purtroppo non durante è una la cosa... canzone e stiamo cercandola. Sì, ci sono alcuni titoli, stavo raccontando a Bino e agli altri. Dove io ho qualche difficoltà in più nel canto, nel senso che mi commuovo più facilmente, mi emoziono e molto di più. Non riesci a metterla più. Dentro quelle note, no, quell'emozionamento dentro, come? Però ti si strozza. Sì, ma va benone. Cioè, anzi, sono io, a parte che io ho sempre pensato che gli unici momenti o le uniche ore in cui io sono veramente me stesso è quando canto. Che lì non sto bleffando, sono io, no? E questa è la cosa molto interessante della tua trasmissione, no? Sì, è vero, esattamente quello. Studia la voce in tutte le sue declinazioni, in tutti i meandri. E 051 sì. È una di quelle canzoni, insomma. Sì, come quella con Pierangelo Bertoli. Pierangelo, sì. Poi questa hai avuto... Abbiamo trovato, grazie a Rachele, che è una caporedattrice di se stessa straordinaria. Senti un po', un attimo, questo duetto di questa canzone. Avessi almeno la mia radio. E questo sei tu e va bene, no? Sì, sì, certo. Vediamo. Cioè, ascoltiamo. Guarda che ti ho visto con le mani dentro il naso, sei romantico. E poi la stessa mano te la passi tra i capelli, sei fantastico. Un po' più avanti, eh? Sì. Un po' più avanti, cercate il momento. Sì, è proprio quando entra. Verso il finale, insomma, è Lucio Dalla. Dove c'è l'inciso entra Lucio Dalla, che sì. Adesso stanno cercando. Sì, no, assolutamente, vi diamo il tempo, signori, non vi chiediamo il miracolo. Santa Vigilia, in diretta siete carità. Già straordinari. E tu poi comunque non ti sei lasciato indietro niente, anche lo Zecchino d'Oro mai fatto. Eh beh, certo, io l'ho condotto per 4 anni, per cui me lo ricordo. Per cui insomma, no? che è stata l'unica volta. Poi, essendo io un tifoso della Lazio, c'era un bambino del giapponese che si chiamava Ryoma ed era bravissimo. Ed è la prima volta che io ho detto in televisione: ho detto forza Ryoma, l'ho urlato e abbiamo, siamo divertiti moltissimo. Anche ma non dicevo. Era quell'anno lì? No, tu l'hai fatto dopo. Io forse, dopo. L'hai condotto dopo. Mi sa che l'ho condotto dopo. No, sì. Io lì mi sono fatto piacevolmente coinvolgere perché ti sei fatto un altro regalo. Sì, certo. Beh, e poi era uno zecchino, come dire, degli autori, no? Mi ricordo che c'era Enrico Ruggeri, c'era Pino Daniele. Beh, insomma, era ben accompagnato. Certo. Abbiamo Lucio Dalla? Eccolo. Eccolo. Manifesti in mezzo agli altri, su quel faccino quanti pugni, quante botte, ma lo sai che ti potevano ammazzare. E Lucio Dalla. Senti. Oh, non mi picchiare un'altra volta, che ogni volta ho più paura. Uno strappo alla mia Martini. Non arrivo mai alla porta, mi raggiungi e sei una furia. Non c'entro niente coi tuoi guai, non c'entro con i dispiaceri. Questa è anima vera. Queste cioè, anime, queste è soul, no? Secondo me ha fatto fatica un po' pure lui, eh? L'ha strappata proprio. Sì. Questo è come il pezzo di Gragnaniello che canta Mia Martini con Murolo, dove in mezzo lui non lo riusciva strappa. Neanche a sentirla. Si sente, nell'89 si quando l'ho pubblicata. Ci credo. Ma che per momento. Moltissimo. Questa è magia pura. Va bene, torniamo allo Zecchino d'Oro, a Lucona Sgangherona. Terza classificata, la 33esima edizione. E poi uno dice, come il telegiornale, no? Va bene, si cambia argomento dopo queste situazioni estreme. Passiamo. Così deve essere. La vita è questa, è un ping pong. Allora, io l'ascolterei questa. Come ti è nata? Cioè, ti hanno chiamato, hai visto che c'eri Pino Daniele, c'era Ruggeri. No, c'era... non è solo quello, però ecco, era è stato uno zecchino un bel... di autori. Sì, era ancora lo zecchino d'oro, vero? Mi ha chiamato, non mi ricordo più chi, a dire il vero, e mi ha detto, ma ti piacerebbe, hai mai fatto questa cosa? Dico, no, non l'ho mai fatto. Ha detto, non c'ho l'età, però, insomma, posso neanche dargli, ha detto, guardate che sono grande. Però ci posso provare, e mi è venuta fuori questa storia. Se non l'avete saputo fino adesso, Lucchetta... Lucona Sgangherona è di Fabio Concato. Potete telefonare ai carabinieri da adesso. Vai, apri il numero. Il testo è fantastico. Ecco. Lucona Sgangherona, morbida come una poltrona. Era cresciuta in un vecchio casale. L'animale è un alibi, ma c'è una storia sotto. Sì, sì, Fabio, non ti preoccupare, tranquillo, tranquillo. Levate il microfono a Fabio. Chiudete il microfono a Fabio, sentiamo Lucona Sgangherona, per favore. Poi sentiamo Gigi, ma adesso sentiamoci Lucona Sgangherona. Faceva proprio da sentinella. Sarebbe bello sentire la tua voce su questa canzone. Sarebbe bello, sì. Ma stavo pensando proprio adesso che io nel prossimo disco metto Lucona Sgangherona. Tu sai che io smetterò di salutarti. No, no, è bello, sto scherzando, ovviamente è un piacere. Però è bello sentire. Molto, moltissimo. Lucona Sgangherona. Però aspettate, possiamo. No, sta finendo questo blocco, ce ne sta ancora un altro. Voglio sentire, ti ricordo ancora di quest'album straordinario. Bellissimo, questa fusione. Di fusion si tratta, di jazz e voce, bellissimo questo Fabio Concato, Paolo Di Sabatino in trio e Gigi, lo urlo questo nome perché pezzo più bello del mondo e della persona che ti ha dato l'amore per la musica, per cui lo urliamo. Poi dopo voglio parlare anche di una cosa che hai fatto, hai cercato di rubarmi il mestiere, hai fatto un audiolibro del Piccolo Principe. Non si fa così, tu mi hai sentito cantare a me, a parte tale certo, quale show certo l'ho fatto, sentito cantare. D'accordo, sono arrivato ultimo, va bene, l'ho fatto con ironia, davvero arrivasti ultimo, sì, volevo sempre 5, ormai era un gioco perché praticamente facevo 12 ore di trucco, era Louis Armstrong che imitava Pino Insegno, era capito? Sì, perché poi sembrava Maurizio così. Costanzo Nero, sì, ero sì, proprio, sì. Non assumiamo a me stesso sempre, non c'era niente, Johnny Dorelli. No, no, non c'è. Ma c'avevo i truccatori veri, ma non usciva la mia faccia sempre. Per cui devo dire, se nascevo De Niro, me morivo di fame io. Perché mi ricordo qualcosa. Io pure con le parrucche, sono sempre io, non c'è niente da fare. Va bene, signori, tra pochissimo con l'amico Fabio Concato, il nostro gruppo straordinario di jazzisti, questo duo di Sabatino. Voglio Voice Anatomy. Come promesso, bentornati signori miei, Fabio Concato qui alla mia sinistra e i fratelli di Sabatino, straordinari jazzisti, dall'altra parte. Quest'album nelle mie mani, Gigi, questo Paolo di Sabatino Trio e Fabio Concato. E io me ne voglio sentire un'altra, se non vi dispiace. Ma pensate, loro mi hanno chiesto, ascoltiamone un paio se vuoi, eccetera. No, io ne ascolto tre, quattro. Non mi dispiace per niente. Poi continuo in macchina. Per cui, e stasera a casa, non metto quella giusta, hai visto mai succede qualcosa. Mi mettete per favore la prima, con la Gabriele, ti ricordo ancora. Le braghe corte di tuo fratello, le gambe viola, tua mamma stanca costretta a farti un po' da padre, a me la ricordo ancora tutta bianca. Me ti ricordo ancora l'ingenuità, la tua tenerezza disarmante, eri un omino ma dentro avevi un cuore grande e che batteva forte un po' per me. E ti ricordo ancora, dimmi che non è cambiato niente da allora. Chissà se parli ancora agli animali, se ti commuovi davanti a un figlio. E ti ricordo ancora nei pomeriggi. Stavamo discutendo con Fabio della tournée. Questa è stata, ovviamente sarete in giro perché l'estate è sinonimo di tour, sì, sicuramente, sì, ma certo, quest'inverno certo. Dovete giurare a tutti quanti, ma che sarete nei teatri di tutta Italia. È quello che stiamo provando. Questa musica, cioè, provando. Sì, cioè, beh, lo sai che non è facile. Non è, non è, sì, ho capito, facile. Ma non è che dico vado io in trio. Vai tu in trio. Se andavo io, dicevo, sto provando ad andare in trio con i Di Sabatino, vediamo se ci aprono le carceri o i teatri. No, sicuramente, ma un po' di teatro sì, lo faremo senz'altro. Questo a Roma, Teatro Sistina, sicuro. Ma anche magari all'improvviso in un jazz club, ma anche piccolo. E sono quelli che facciamo. Che abbiamo fatto quelli. Anche. Eravamo certo. La settimana scorsa a Bologna. Un bravo caffè di Bologna. Sì, sì. Sì, oppure nei locali quelli proprio deputati, tipo il Blue Note due mesi fa. Blue Note a Milano, insomma, come no, certo. Sì, sì. Ma è quello. Perché ma non disdegniamo neppure situazioni più grandi, più aperte. Ah, quello sicuramente, però sai, questo è bello, è vero che insomma, sì, giustamente. È da spazio. Sì, sì. Da spazio al pensiero, al sogno, non la canti insieme perché è difficile, cioè io la conosco perfettamente, ma ti lascio, ti ascolto perché andarti dietro non è assolutamente facile. Dicevo prima che hai cercato di rubare il mestiere a noi poveri attori facendo un audiolibro del Piccolo Principe. Sì, io ce l'ho un momento di questo, anche del Piccolo Principe. Sì, tesoro, non ti lascio niente, Zecchino d'Oro, Uforobò. È vero che questo disco è straordinario, hai fatto delle cose bellissime, quelle sono altrettanto belle, la tua ironia mi permette di presentarlo. Poi parliamo del per Piccolo Principe. Per me è stata un'esperienza meravigliosa, intanto perché ho riscoperto un romanzo fantastico, sì, sì. Non che muore mai. Quando ero piccolo mia mamma cercava. No, è faticoso, la rosa, il serpente. Secondo me era una roba... l'ho riletto a 40 anni e ho scoperto uno dei mondo. Libri più belli del mondo. Sì, come proprio. Vedere un film di Walt Disney. Leggi tu, leggi pazzesco. Una cosa, tuo figlio un'altra. Sì, ho doppiato il Piccolo Principe, faccio il serpente, è cattivo sempre, mi capite? Io ci ho provato, Pino. A fare il serpente? A fare il... Doppiaggio? Il doppiaggio, la voce narrante, no? Così come... Scusiamo, ce l'abbiamo, però, Fabio. Sai, no, ti perdono, ti perdono. Io dopo canto Fiore di Maggio, t'avverto. Va bene. Vai. Allora, Leone Wirth, domando perdono ai bambini di aver dedicato questo libro a una persona grande. Ho una scusa seria. Questa persona grande è il miglior amico che abbia al mondo. Ho una seconda scusa. Questa persona grande può capire tutto, anche i libri per bambini. E ne ho una terza. Questa persona abita in Francia. Questa è Lynch. A freddo. e ha molto bisogno. Questo è l'incipit del libro, della dedica dell'autore. Abbiamo anche un momento di narrazione. Dedicherò questo racconto al bambino che questa grande. Va bene, no, è un problema, se no continuo io, guarda. Tutti i grandi sono stati bambini. Il piccolo principe ritornò l'indomani. Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora, disse la volpe. Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le 4 incomincerò, eccetera, eccetera. No, questo mi fa capire. Non lo devi fare, capito? Non lo devi, non lo, devi non, permettere. No, sto scherzando, perché adesso io faccio questo. Tu prepara quella canzone di Fabio, ciò che ancora devi abbiamo cantare, messo. Guarda come fa. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, capito? Che mi arriva addosso? Ma niente, comunque sei musicale, lo sei sempre stato. Non mi arriva lo scoglio, lo scoglio dove, che mi arriva in faccia. Invece facciamo questa prova al contrario. Senti. Passato qualche mese, amici. Sì. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole. E poi ero tutto. Ma no, ma il adesso ho capito. No, no, però ho capito anche il motivo di certe imitazioni. Beh, ma sei caratteristico. Ma è fantastico. No, perché siccome io. Ma è una non caratteristica, questa è fenomenale. Il fatto di essere imitati vuol dire che uno è caratterizzabile. Sì, se no, sì, se sicuro. Non passa, Ma siccome io non mi sono riascoltato per molti anni. Quando ho sentito, ad esempio, Biagio fare la mia imitazione, Antonacci fare la mia imitazione, io ho detto, Biagio, però... non sono così io. È un po' esagerato. E invece mi sono risentito... C'ha ragione. C'ha ragione, cioè, è una roba... però è la mia... È pazzo, mia... prende in giro se stesso. Ma certamente, ma certo. L'ironia sì, Fabio, però... No, no, sei straordinario. Questa... No, ma è la mia caratteristica. Sì. È vera questa roba. Sì, ma è bello. Ma non è niente, è la porta che cigola, no, Fabio. Mi fa sentire, chiudi il microfono a Fabio Concato che fa una pubblicità di se stesso pessima e non riesco a lanciare il disco. Falla, alza la musica. Beh, forza mia. Sei venuta giù. Cantala adesso, dai. Un passaggio da piano. Fabio! Un bacio, vedete, bacio. Su uno scoglio ed eri tu. Così è cantabile. Falla. Falla cantare un altro. Questo è come le canzoni di Battisti. Prova. No, nel senso, canta Pino, ma guarda Fabio. Che io mi amo profondamente. Non lo so, ma io scherzo però, perché sì, gioco insieme a te. La gente ha capito questo. Stiamo dai. Giocando. Cioè. Ma certo, ma è fantastico tutto questo. Vai, ma tu l'hai mai sentita il coso, il Festival di Gabice di Biagio? È una roba dove imita me e a saperlo Luca, un attimo prima. Garbo. Era una cosa. Ah, ma Biagio è così, lo conosco, sì, sì. Ed è una persona piacevolissima e simpatica. Non sapevo fossi imitatore. È pazzesco. Non lo chiamo. Secondo settimana. Me è il mio migliore imitatore, perché non sono così facile. No, perché di essere intonato. Biagio è micidiale. Voce in maschera, sì. Modulata sì, in maniera sì. Sudamericana. Non è. Ma tu guarda che faccia che fa quando canta se stesso. Fabio canta Fabio, pensa un po' che succede, che si prende in giro. Eh certo. No, no, ma io non vedo l'ora veramente di ascoltarvi. Senti, sottofondo, così, un tienimi dentro te, così, mentre ci salutiamo in questi due minuti e mezzo che ci rimangono, perché io ci tengo a sottolineare l'importanza di questo album, che è soltanto, che non è soltanto ripercorrere i successi di Fabio. Avrebbe potuto fare un Gredistinze tranquillamente, mettere due inediti e via così, no? No? No, no, no. Invece questo significa rimettersi in gioco, vuol dire sì. Cercare una nuova strada, certo. Ricercare se stesso attraverso, poi tu sei sempre stato jazzista. Nuovi stimoli. Nuovi stimoli. Assolutamente. E devo dire, guai sentite fermarsi. Che bello. Io ne avrò, nonostante il mio lavoro, quando mi chiami, ci sarò e manderò via le tue paure. Oh, dimmi amore, cosa pensi quando mi pensa questa musica sotto? Ciao amore, volevo dirti se potevo passare da te stasera. Siamo io, Fabio e Di Sabatino, ma loro rimangono fuori. Ti dispiace? Il pianoforte è fuori la porta. La batteria se la tocca lo gonfio. Fabio mi accompagna, poi mi lascia nel momento più basso. Io ti recito certo. I miei versi. Certo. No, perché ma vivete troppo lontano da qui, signori, perché ogni domenica, appuntamento fisso, il momento di Fabio e di Sabatino. Ormai dai, diventerà un appuntamento. Ma appuntamento fisso. Telefonami domenica prossima, Fabio, non te ne puoi andare sempre. Per telefono. Guarda, tu. Se vuoi. No, ma per me. Non ci sono mica problemi. Lui suona sotto il pianoforte, l'altro suona a batteria. No, batteria non dà fastidio per pianoforte. Grazie. Cioè, no, ma cioè, per telefono mi si. Ah, beh, certo. Ma mettiamo su uno spettacolo, Pino, sì, scusa. Quello sicuramente. Io presento Fabio Canta. Ogni tanto però uno io sketch. Porto il caffè. Esatto, no, secondo me con Fabio avrebbe fuori una cosa molto. Se venite a Roma, io una passeggiata me la faccio e vi prometto che all'improvviso salgo sul palco alla fine di un pezzo, salgo pure se non mi chiamate. E vai e racconto Fabio. Beh, alla grandissimo piacere. No, succederà. E allora, signori, grazie. Vi ricordo ancora, e non è pubblicità, è soltanto avere. Vi ricordo ancora, per questo l'ho messa. Ti ricordo ancora questo Fabio Concato, Paolo Sabatino Trio, Gigi. Canzone meravigliosa, papà straordinario che ti ha dato la forza grazie e la voglia di fare questo mestiere. Grazie Glauco, grazie Fabio, grazie Fabio Concato per essere stati con noi a Voice Senato, mi hai dato lustro a questa trasmissione. Grazie, grazie infinite, un abbraccio a tutti. Grazie. Quanti. Saluto a tutti gli ascoltatori. E grazie a voi. Ciao. Per volerci così bene. Un abbraccio a tutti, grazie.